Credo che si possa cominciare, Presidente, sì. Vero? Cominciamo. Perché Chitolini sta arrivando, sì. Insomma, quindi. Mi pare che ci si debba presentare anche, o sbaglio? Molto bene. Ma io ho fatto un po' di cosette sulla letteratura giuridica dal 4 al 500. Un momento, prego. Bitte Herrn Bien, Herrn Axel Bien. Für dieses Referat im Anschluss eine kleine deutsche Zusammenfassung zu geben. Ich glaube, dass er besonders italienisch kann. Forse meglio. Es ist besser. Besser. E dicevo appunto lavori sulla letteratura giuridica tra 4 e 500, poi su alcune tematiche tipo necessitas non habet legem, alcune cose di storia dottrinale per così dire, e poi mi sono più orientato un po' verso la storia istituzionale senza tralasciare alcune categorie di fonti tipo le decisiones e i consilia, finendo negli ultimi anni per entrare nella storia di Siena come un casework, no? per insomma, da vedere insomma, se si poteva cavare fuori qualcosa di più generale dal caso specifico senese. Questa sera appunto stralcio dalle mie cosette senesi, stralcio un po' le notizie che ho potuto recuperare sugli statuti, cercando di ricostruire, temo che sarò un po' noioso, vi avverto subito, sarò un po' noioso perché ho cercato di ricostruire un po' lo sviluppo, la genesi del come si è presentato il fenomeno statutario a Siena, come si è sviluppato nei secoli e temo che sarà un po' lungo, ma credo anche che essendo una cosa piuttosto analitica non dovremmo arrivare alle discussioni troppo grandi che abbiamo fatto, insomma, quindi forse toglierò qualche minuto al dibattito. Insomma. Dunque, naturalmente gli statuti si possono esaminare da vari punti di vista, gli organizzatori credo molto utilmente non ci hanno messo dei limiti e ognuno di noi ha un po' ricostruito l'ottica, il taglio che preferiva o che riteneva più opportuno. A me è sembrato in questo momento, in questo primo approccio a questo al problema degli statuti a Siena, mi è sembrato più urgente la questione di vedere un po' diacronicamente come si è sviluppato in rapporto allo sviluppo complessivo delle istituzioni e alla storia cittadina. Cioè ho cercato di contestualizzare questo fenomeno statutario, sia pure naturalmente per sommi capi, perché non posso farvi neppure un trattato di storia basso della Toscana meridionale in questa sede, ovviamente. Ecco. Innanzitutto noi abbiamo un problema di fonti quando parliamo di statuti senesi, perché il primo statuto del comune che conosciamo è quello che è a stampa ormai da quasi un secolo a cura dello Zecauer, cioè del 1262. Quindi noi possiamo conoscere concretamente uno statuto senese quando a Siena e altrove la vicenda statutaria, l'esperienza statutaria è già molto matura. Così come molto matura, anzi ormai comincia a entrare in crisi, certe istituzioni comunali come quella podestarile. No? Tuttavia, grazie ad alcuni capitoli datati di questo statuto del 1262 e ad altra documentazione, possiamo dire qualcosa sul periodo precedente. E io qui vi ho cercato di assemblare un po' le informazioni sicure che abbiamo. Le informazioni sono essenzialmente queste. 1180, prime notizie intorno al 1180. Consuetudines, usus della civitas e c'è anche un mos della regio in alcuni documenti. E in alcuni contesti, anzi, si contrappone questo usus a un constitutum non meglio precisato, che evidentemente quindi in questo contesto sta per diritto, dovrebbe stare per diritto scritto, d'accordo? Agli anni successivi risalgono dei capitoli datati, conservatici in redazioni più recenti, che sono capitoli essenzialmente di diritto privato, per lo più in accordo o altrimenti sono delle specificazioni del diritto romano, in realtà. In realtà il lessico giuspubblicistico romano risale la stessa designazione che abbiamo visto, constitutum da constitutio, evidentemente presa dai testi romani. Del resto nel 1173 è attestato un docente di diritto a Siena. 1176 i consoli compiono una donazione di rilievo pubblico, di rilievo comunale, dichiarando che scelgono la disciplina del diritto romano per le conseguenze della donazione, dicendo perché noi viviamo legge romana cum tota civitate. Quindi c'è già una dichiarazione di territorialità, diciamo, del diritto romano romanzo, ecco, per come poteva essere il diritto romano a fine del 1100. Intorno al 1200 si infittiscono le notizie di norme emanate dal comune, le norme sui villani nel contado, le norme sul dazium, ecco, cioè le norme importanti da un punto di vista politico. C'è un costitutum che sappiamo ormai distinto in capita, e c'è un breve sul quale giurano i consoli. C'è un altro constitutum che è quello dei consoli del Placito, che è una magistratura che probabilmente aveva una funzione, una magistratura evidentemente molto antica, già da questo consules Placiti, dal nome, che aveva una competenza probabilmente molto più ampia, quindi, e poi è andata specificandosi nella quella che oggi chiamiamo volontaria giurisdizione, quindi tutele, curatele, si è andato specificando come una giurisdizione di tutela dei minori e così via. Sono gli stessi anni cui risale anche un importante Liber Iurium, siamo nei primi anni del 200, un Liber Iurium che mette ordine, rimedia alla dispersione dei documenti in Bicherna. La Bicherna Siena è l'ufficio finanziario, cioè quello che diventerà un ufficio soltanto finanziario e che ora è ancora un ufficio amministrativo con competenze amplissime, governato da 4 provisores e un camerarius, naturalmente. Negli stessi anni, siamo sempre nel primissimo 200, abbiamo poi testimonianze di molte altre norme che ci fanno vedere come si stia intensificando la normativa comunale sui notai, ad esempio, o norme in cui si dice che certi patti conclusi con signori del contado vanno inclusi nel constitutum, nel senso che se ne deve giurare l'osservanza. Il testo va nel Liber Iurium, il testo dell'accordo, e l'obbligo di giurarne l'osservanza va nel constitutum. La distinzione tra breve dei consoli, constitutum del comune e constitutum del placito, mostra che c'è già la tendenza a fare dello statuto qualcosa di più e di diverso dalla normativa per i consoli e poi per i podestà o per una singola magistratura. Il constitutum tende a raccogliere la normativa più importante e meno fluttuante. Quindi, ho ricordato il Liber Iurium proprio per questo, il Constitutum praticamente raccoglie la normativa unilaterale, tende a raccogliere la normazione che dà il comune come soggetto singolo, autoritativamente. Nei Libri Iurium invece tendiamo a raccogliere la normativa bilaterale, quella concordata con altri poteri. È un po' una distinzione grosso modo, ovviamente. Al di fuori del Costituto ci sono tante norme, ma non sono ancora tipicizzate, per così dire, la Gesetzgebung, appunto, per riprendere, la legislazione è ancora in una fase ancora un po' non tipica. C'è una pergamena del 1208 in cui dei 15 inventores, unde debita communis solvantur et sbrigentur, raccolgono tutta una serie articolata di norme, però non danno nessun nome a questo provvedimento. sono delle, noi le chiamiamo norme, elencate una dopo l'altro, il podestà farà questo, i comuni del contado faranno quest'altro, il podestà farà mettere nel sacramentum del suo successore quest'altra cosa, sono evidentemente dei contenuti autoritativi, insomma, chiaramente, però non si definiscono, né si dice che ci sia stata una delega da parte del Consiglio del Comunale, del Consiglio della Campana, per emettere questi provvedimenti, il che mi sembra appunto che siamo ancora in una fase di mancata tipicizzazione dei provvedimenti normativi. È un atto piuttosto di forte volontà politica, prima ancora che un atto giuridico. Volontà politica nel senso che il Consiglio della Campana si sa già nel 1208 che è l'assemblea legislativa, non per niente in questa importante pergamena si dice il Consiglio della Campana poi preciserà su questo punto, dirà che cosa bisogna fare eccetera, però è praticamente un documento da un lato immediatamente precettivo e dall'altro di programmazione, come è tipico di ogni atto politico insomma, no? Negli anni 20 intanto è apparso il Populus, la Societas Populi, sono comparsi Milites, si moltiplicano le notizie di una reaptatio statutaria affidata ad un magister distinto dagli usuali 13 emendatori degli statuti. Si parla di un constitutum novum e del constitutum potestatis e un documento singolare ci conferma una larga diffusione della cultura romanistica di tipo notarile o meno, comunque certamente molto diffusa. C'è un cosiddetto memoriale delle offese, 1223, in cui il comune viene presentato come una persona offeso dalla inosservanza del constitutum de facto bladi, del divieto insomma, da parte di molte comunità del contado, e quindi dice ricordati di quella comunità che non ha pagato, ricordati, è una specie di memorandum delle offese che il comune ha ricevuto, e poi finisce invece come con soddisfazione dire però noi abbiamo anche da ricordare degli esempi positivi come hanno fatto i romani, noi abbiamo preso Grosseto, abbiamo appunto bisogna tenere ricordo di questa importante acquisizione territoriale. Nel 28 i capitoli della Lega contro Firenze di nuovo vanno inseriti negli statuti e nei brevi dei consoli e degli ufficiali del popolo. Nel 30 compare per la prima volta nella documentazione, ben inteso, il nome dei complessi di questi complessi di norme che facevano le commissioni speciali come quelle che abbiamo visto prima. Si comincia a parlare di ordinamenta, gli ordinamenta sui lavori del contado, un ordinamento sull'exercitus, super facto maleficiorum, super modo iuris redendi addirittura, il che sembra farci pensare che appunto c'erano ancora importanti materie al di fuori del constitutum. Quindi forse in questa fase ancora, prima di far entrare certe discipline nel Constitutum, si sperimentano cautamente, il che comporta appunto, direi, un po' che si accrediti quest'idea del Constitutum un po' come il complesso delle norme più stabili, no? Al di fuori si tiene quello che si sperimenta prima di inserirlo. Gli statuti e i brevi sono ritenuti come documenti più solenni, non fosse altro perché su di essi si giura. Nel 46 si scrivono i 9 brevi, non meglio precisati, sui quali giura il populus, ma si parla di ben altri 26 brevi e di un constitutum dei 4 provveditori di Bicherna di cui abbiamo parlato. Quindi, questo è importante perché ci fa vedere come l'attività amministrativa spicciola, diciamo, è disciplinata da un constitutum a parte rispetto a quello del comune, di questa magistratura speciale. Nello stesso anno sappiamo che il constitutum è diviso in distinctiones, entro le quali gli emendatori metteranno i capitula nova. Quindi vedete anche qui come constitutum distinctio, probabilmente decretum di Graziano, non so, insomma, ecco, è di nuovo un modo di nobilitare forse questa suddivisione. Alla metà del 200 c'è podestà Umberto dell'Andito, che gli studiosi Manfredi conoscono bene, e ci sono molti atti importanti. Il primo è un breve degli ufficiali, che sarebbe meglio chiamare breviarium, così sull'esempio di, lo Zecauer dice un po' sull'esempio di un breviarium notarile redatto. Comunque a noi interessa che ci fa conoscere una cinquantina di brevi degli uffici, quindi noi abbiamo una idea dell'organizzazione amministrativa del comune, per la prima volta possiamo avere un'idea chiara degli uffici centrali dello Stato. È interessante notare, c'è anche il breve dei consoli del Placito, che giurano di rispettare il costituto del podestà e quello della propria curia. Vedete, il console del Placito deve giurare appositamente di osservare il costituto del comune, che qui è detto del podestà, e quello proprio è detto seu ordinamento de meo officio. Ecco, quindi ordinamentum tende a coprire una normativa di settore, direi, no? Dice constitutum seu ordinamentum. L'altro provvedimento importante è una carta bannorum, che è una raccolta di regole, diremmo oggi, di polizia urbana, insomma, per regola la convivenza in città, e in cui è molto ampio l'arbitrium del podestà nel punire i vari malefici. Infatti il podestà si richiama ad una carta maleficiorum redatta da una commissione di cittadini, si impegna a rispettare quella carta maleficiorum, il che di nuovo ci conferma che ci sono delle parti anche importanti al di fuori del constitutum, e poi in più si riserva l'arbitrium di punire in determinati casi. Siamo a metà del 200, dicevo, e si infittiscono le tracce del predominio del populus e della correlativa istituzionalizzazione del podestà come alto magistrato, ma con importanza politica sempre minore. Il populus è diretto da un collegio di 24 priori che hanno uno statuto che si fa rivedere, naturalmente, di cui sappiamo, nel 56 ad onore e utilità del populus. Si vorrebbe anche migliorare il constitutum del populus nello stesso anno, che si dice va esemplato secondo quello di Pisa, però non conosciamo né quello di Pisa di questo periodo, né c'è rimasto questo di Siena. Il popolo ha a questo punto un proprio giudice, e sappiamo anche che nel suo constitutum ci sono delle norme sui poteri dei giudici comunali. Purtroppo però del populus non c'è conservato il constitutum. Quindi noi tutte le informazioni che abbiamo sul populus, che attualmente domina politicamente, le ricaviamo soltanto dai cenni che ci vengono attraverso la documentazione comunale. Il populus che fa anche propri statuta, stranamente si parla di statuta non per il comune, ma compare ad esempio per uno statutum, come legge ordinaria. Il populus, sappiamo, fa uno statutum sui mulini. I consiglieri del popolo hanno un breve. Arriviamo alla redazione che abbiamo detto, la prima conosciuta 1262. Evidentemente tutti la collegheranno con la precedente vittoria ghibellina di Montaperti 1260, e ci mostra un balzo organizzativo del comune notevole rispetto al breviario di 10 anni prima. La revisione, come al solito le revisioni eccezionali, non passano attraverso gli emendatori, l'ufficio degli emendatori, ma qui sono stati al lavoro 3 giudici assistiti da un notaio per almeno 27 giorni. 5 distinzioni, secondo schemi romanistici direi. Il primo è su De Fide Catholica, come nel Codex naturalmente. La seconda distinzio è di diritto processuale, di nuovo come nel Codex Giustinianeo. Si tenga presente che la prima però è un de fide cattolica, ma non ha ancora recepito le costituzioni contro gli eretici. Questo è interessante. La terza distinzione su città, contado, dazi, mura, strade, cioè le res pubbliche. La quarta sulle res private, pedaggi, cittadinanza, stranieri, villani, e quindi anche qui una distinzione res pubbliche e res private come nelle istituzioni. L'ultimo distinzio è di diritto penale, come nel digesto il diritto penale è messo in fondo. C'è in questo Costituto un'equiparazione tra capitano del popolo e podestà, nel senso che l'uno dovrà rispettare la normativa dell'altro, ma la distinzione formale è sempre rigorosa, la distinzione tra comune e popolo. I 13 emendatori si riuniscono per emendare lo statuto, fare constitutiones, si sa che gli emendatori hanno potere normativo, insomma, non c'è bisogno, poi lo statuto viene mandato al Consiglio che ratifica, no? Esaminano anche lo statuto dei consoli del Placito, il breve di quei quattro di Bicherna di cui abbiamo già parlato e gli altri brevi, ma certamente gli emendatori del Comune non si avventurano, immagino, nello statuto del popolo. Il Vescovo è esplicitamente chiamato a risolvere le oscurità dello statuto, così come potrà intervenire alle riunioni degli emendatori. Però si dice che gli emendatori non sono tenuti a seguire quello che il Vescovo o il Podestà vorrà proporre. Naturalmente, ecco, questo è anche abbastanza interessante perché le norme sui capitola perpetua non sono così frequenti, si dice che gli emendatori non possono toccare i capitola perpetua. In questo periodo quindi si vede proprio lo statuto un po' come il programma annuale del Podestà, in cui però c'è un nucleo costituzionale duro, questi capitola perpetua, che non possono essere toccati neppure dagli emendatori. L'equilibrio popolo-comune si rompe col predominio guelfo. Nel 68 già si ordina che i capitoli sulle strade, vie, ponti, eccetera, vengano trasferiti dal Costituto del Popolo al Costituto del Comune, il che, se da un lato ci conferma l'importanza che aveva il Populus come entità politicamente autonoma, ci fa vedere come ormai ci si impadronisca del Comune completamente, no? Poi, dopo il definitivo crollo ghibellino del 69, si riformulano gli statuti. Per la prima volta troviamo fatti in onore non solo di Re Carlo, ovviamente, ma anche del Papa. A parte i capitoli più prettamente politici, lo statuto degli anni 70 è però modellato su quello che abbiamo a stampa del 62. La situazione è più complicata però perché ora c'è anche una parte guelfa che ha un proprio costituto, ha un suo consiglio, e la parte guelfa né i priori del comune dovrebbero, si dice, non dovrebbero rompere, no? Tecnicamente non dovrebbero non rispettare, diciamo oggi, i capitoli del costituto del comune. Quindi si vede come c'è questa forte, questo può far pensare naturalmente a un forte influsso politico nella gestione della giustizia, anche perché si precisa specificamente i capitoli penali dovrebbero essere rispettati. Forte controllo politico che viene fuori anche da una norma estremamente chiara che è in chiusura dello statuto. Si dice tutto quello che è stato scritto sopra deve essere rispettato, però senza che questa normativa leda l'ufficio del governo dei 36, ora sono 36 priori, che devono poter procedere libere et expedite. Come dire, appunto, c'è una legislazione solenne, però se c'è qualche motivazione evidentemente si potrà derogare. Con gli anni 80 si consolida il governo guelfo e inizia il regime, il periodo del boom statutario. Abbiamo 7 codici di quegli anni, in redazioni leggermente diverse una dall'altra, talora fittamente annotate dagli emendatori, che regolarmente datano anche le rubriche, elaborate per di più a maggio. c'era una specie di dieta di maggio per rivedere, con capitoli cancellati, tra l'altro ci sono anche molti capitoli che attestano la esecuzione del lavoro che doveva essere fatto da parte del podestà. Sono codici di fattura molto bella, codici miniati, delictera grossa, si ordinano quando vengono, quando ne viene ordinata la confezione, e sono probabilmente ben conservati anche perché sono stati rapidamente superati, insomma si superavano rapidamente uno con l'altro. Siamo alla preparazione del governo dei mercanti o di mezzana gente, quello che ha studiato William Bauschi soprattutto. Ecco, questi statuti si presentano già d'apertura come un superamento dei precedenti, che erano ancora dei programmi del governo podestarile soprattutto. Questi si aprono con le costituzioni contro gli eretici, che là non c'erano, con un inno alla Chiesa, ma cominciano a dimenticare gli Anjou significativamente e esaltano comune e governo, i nove difensori e governatori del comune e del popolo. La stessa sistematica registra i cambiamenti avvenuti. La distinzione quarta sui privati è ora intitolata alle franchigie, rappresaglie, villani, eccetera. Però si aggiunge una nuova distinzione, la sesta, che è interamente dedicata al governo, a come il governo viene fatto, si costituisce e soprattutto che poteri ha e come lo si deve proteggere. È sempre il podestà portare le proposte in Consiglio Generale, ma dopo averle concordate con i quattro di Bicherna, eletti dai nove, quindi eletti dal governo, che diviene il motore di tutte le attività governative, di amministrazione. C'è una norma molto espressiva sulla loro centralità. Settimanalmente il podestà e il capitano del popolo si recano alla residenza del governo per assistere al vaglio delle petizioni che sono pervenute e cui si dovrà rispondere in consiglio. Quindi concentrazione di potere che è come equilibrato da maggiori controlli formali. C'è ad esempio una minuta disciplina del maggior sindaco straniero che non solo sindaca gli ufficiali ma controlla la legittimità statutaria delle proposte che giungono in consiglio. È forse anche un altro compenso a questo forte accentramento la cura di una redazione volgare degli statuti. 1309-1310 è una redazione molto nota perché è un italiano tra l'altro splendido, insomma, che è pubblicato agli inizi del secolo. Statuto in cui si fanno confluire anche quelli della curia del Placito, quindi c'è già un tentativo di unificazione di varie fonti. E interessante questa ideologia del populus trionfante che li mette in volgare perché tutti possano leggerli e trarne copia. In particolare si è così fatto per le povere persone e le altre persone che non sanno grammatica. In questi primi anni del 300, tuttavia, si nota un rallentamento dell'attività degli emendatori, come se si volesse riservare appunto agli statuti la normativa più solida. È invece la legislazione di dettaglio che si va tipicizzando e non si tenta neppur più di inserirla annualmente negli statuti. L'esigenza della pubblicità di queste leggine si fa subito sentire. Ed ecco che interviene puntualmente la norma. Le leggine vanno raccolte, le reformaciones, vanno raccolte in volumi a parte, entro 15 giorni mi pare dalla delibera, eccetera, e devono essere tenute pubbliche come gli statuti, accanto agli statuti. Si tratta dei libri reformationum, in volgare libri degli ordinamenti, di cui abbiamo alcuni esempi conservati e che dimostrano di nuovo come il governo sia al centro di tutta l'attività pubblica. Anche se i provvedimenti sono per lo più approvati dal Consiglio cittadino, sono i nove che li propongono o sono i nove che si fanno autorizzare dal Consiglio a nominare una commissione per prepararli. Il raccordo tra gli statuti e la normativa corrente è assicurata dalla frequente redazione di testi unici quelli che oggi chiamiamo testi unici, raccolte cioè di normativa concernenti un determinato ufficio. Nel primo 300 abbiamo il testo unico, lo chiamo io testo unico, del maggior sindaco, della Bicherna, dei viari, ci sta lavorando Zabo, del capitano del popolo, mutili ci sono pervenuti quelli del biado e del popolo, mentre è perduto quello del divieto. Lo statuto di Gabella invece, che c'è di questi anni, bellissimo, molto analitico, eccetera, lo statuto di Gabella invece sembra veramente uno statuto, si fece una commissione che elaborò tutta la normativa, eccetera, prescindendo dalle precedenti reformaciones. Con questa molteplicità di testi si arriva agli anni 30, quando si affida prima una commissione di cittadini comprensiva di professores civilis scienze e poi ad un legum doctor forestiero che era a Siena perché era stato ufficiale cittadino, il compito di raccogliere in un breve volumen le leges del comune per assicurare pace, giustizia e la honestas. Si trattava di rimediare, qui di nuovo si ricorda Giustiniano, la tanta legum penuria et egena librorum multitudine, e ora, grazie a questa raccolta, a questo nuovo statuto, si è divenuti ditissimi, perché nove compilationis opulentissima, brevitate, repleti. D'altra parte Giustiniano è richiamato anche più chiaramente, perché l'incipit di questo proemio inizia con Deo Auctore, che è naturalmente la costituzione famosa con cui si ordinò la redazione del digesto. Questi statuti sono compilati negli stessi anni in cui Lorenzetti affresca a Palazzo Pubblico il buono e il cattivo governo. Ovvio ipotizzare una qualche connessione di tipo politico-culturale tra queste due espressioni. Quale connessione? Ma negli statuti Siena ha delle leges e con questo Deo Auctore mi sembra che si voglia avvicinare a Roma. Negli affreschi questo sentimento, questa coscienza di essere un'altra Roma è anche più evidente. Il comune è personificato come assolutamente sovrano, lo vedremo, e ha ai suoi piedi il simbolo di Roma, la lupa coi gemelli. Ogni altro potere, laico o ecclesiastico, è escluso dalla raffigurazione. Perché? Perché siamo negli anni 30, insomma. Negli anni precedenti l'impero è solo stato un motivo di turbamento per Siena, anzi ha ridato spazio ai signori del territorio, ha indebolito la sovranità, mentre la Chiesa e gli Angioini o erano latitanti o quando c'erano chiedevano aiuti e o come negli anni 30 manovravano in modo oscuro. Siena ritiene di non avere bisogno di legittimazioni terrene, infatti in altra parte del palazzo mette la Vergine, è direttamente quindi in rapporto con Massimo, con la Vergine con cui si era dedicata prima della battaglia di Montaperti, no? Quindi diremmo che mi sembra chiaramente una civitas sibi princeps, direbbe Bartolo, o come diremmo oggi, uno Stato sovrano, si ritiene o rivendica di essere sovrana, e così raccoglie le leges come Giustiniano. Anzi, direi ancora di più che sotto l'affresco c'è un versetto in cui mi sembra che si arrivi anche a usare il termine Stato nel senso nostro. Vi leggo questa frase. Questa santa virtù, cioè la giustizia, là dove regge induce ad unità gli animi molti. E questi a ciò ricolti, gli animi, formano un ben comune per lor signor si fanno. Lo qual ben comune, per governar suo stato, elegge di non tener giammai gli occhi rivolti dallo splendor dei volti delle virtù, di tenere sempre presente le virtù che stanno vicino. Quindi mi sembra che ci sia concettualizzata la Respubblica come ente a sé, insomma, e ancor meglio distinto dal governo. Ed è una distinzione Respubblica da un lato, governo dall'altro, che mi sembra che rimanga viva almeno a livello locale per un po' di tempo, perché la si ritrova abbastanza chiaramente in una tavoletta del 1385 che vedremo, e quindi su questo possiamo ritornare un attimo dopo. Capisco che questa può apparire una lettura un po' forzata, però le vicende e la cultura politica del primo Trecento sono state così... lume di consapevolezza che ha dato certi frutti, poi eventualmente rientrati chiaramente, però ci sono dei momenti in cui è possibile. Comunque è dallo stesso testo statutario che emerge qualcosa di interessante, se anche lo rapportiamo, tra l'altro questo è un fatto che va rapportato, è una cosa che non ho potuto approfondire, però c'è uno spunto secondo cui nel 300 toscano a un certo punto compaiono i documenti notarili, nella datazione non ricordano più l'imperatore, e infatti c'è un problema di validità di questi documenti notarili che è un po' connesso a tutto questo, tipo di tematiche. Comunque forse è anche significativo che non ci sia una norma sulla gerarchia delle fonti in questo statuto, ad esempio. È come se lo statuto si fosse tendenzialmente completo e quindi non c'è un riconoscimento esplicito del diritto imperiale. Infatti c'è un capitolo che distingue i destinatari delle norme e dice: i cives, coloro che riconoscono, i cives si dividono in due categorie, quelli che pagano praticamente, cioè che riconoscono lo Stato, che pagano e che quindi hanno diritto a vedersi applicate le norme statutarie. Poi ci sono gli stranieri con un regime a sé differenziato per categorie, sa che lo straniero non era una categoria unitaria dal punto di vista giuridico, e poi ci sono i cives che non pagano, quelli che non pagano, che non sono in regola con la società civile, politica, avranno soltanto il rispetto delle ragioni comuni, in tutti i casi e questioni e liti così criminali come civili. Coerentemente ora è il governo che detta come interpretare gli statuti, qui naturalmente non si parla più di vescovo, naturalmente nei casi dubbi, è il governo che interviene, non solo, si prevede appunto un intervento per cui il governo dichiara che c'è un dubbio, lo risolve e viene inserito nel Liber Reformationum la dichiarazione del governo. Quindi è studiato piuttosto bene, insomma, per evitare anche il problema delle lacune, perché in fondo una lacuna è un dubbio nell'applicazione statutaria, no? Quindi vescovo scompare, doctores non se ne parla, doctores se possono servire nella fase tecnica di redazione, ma in questo periodo sono tra l'altro lontani dal governo, sono stati cacciati dal governo in senso stretto come i notai, di cui naturalmente poi ci si avvale ampiamente, no? Nella vita di tutti i giorni, ma per evitare che prevarichino con la loro cultura tecnica, prevarichino la volontà politica dei populares. Il governo è di nuovo, in modo molto sofisticato direi, presentato come un esecutore della volontà della legge, sembra aver preso il posto del podestà. Invece l'astratto difensore degli interessi dello Stato è rappresentato dal maggior sindaco, che appunto si deve alzare in consiglio e difendere le ragioni del comune. Il governo opera però come ogni princeps, re o imperatore che sia, con l'obbligo di far trionfare ragione, uguaglianza e giustizia. Deve fare estirpare le iniquità dalla città e dal contado, è una sua responsabilità esclusiva, e applicare gli statuti a chiunque lo richieda secondo la forma della ragione e dello statuto del comune di Siena, dove questa ragione non mi sembra il diritto comune, anche perché è messo per primo. La ragione, cioè il diritto, come ha detto, secondo la forma iurium in latino, no? La forma iurium del comune, cioè ius ormai è riferito al comune, alla produzione legislativa del comune. Ma non credo che sia solo per questo che meritava soffermarsi su questo statuto, che si può chiamare appunto del buon governo. C'era da sottolineare che compare in un momento di particolare effervescenza. Vi potrei fare un elenco di altri statuti che vengono fatti o rifatti in questo periodo nello Stato senese, ma è inutile piuttosto dire che è un momento importante perché in quelle in quattro distinziones dalle sei dello statuto precedente finisce per concentrare una normativa vastissima sulla città e sullo Stato. Questo è uno statuto inedito, ci intendiamo, in latino. La copia era stato anche fatto in volgare, ma l'esemplare in volgare è entrato nei manoscritti chigiani e è andato perduto, no? Non è almeno più nella biblioteca Chigi, le ultime tracce si perdono nel 600, a fine del 600. Dunque, dicevo, è uno statuto che in quattro distinziones ingloba non soltanto la materia dello statuto precedente, ma c'è anche l'ordinamento del populus. Ho l'impressione che questo fosse uno statuto anche che finisce per unificare la normativa del populus, perché c'è tutto sulle compagnie popolari e così via, quindi mi sembra improbabile che il populus conservasse una sua autonomia. Il che naturalmente, come è chiaro, questa unificazione dei due enti rafforza anche il carattere statuale di questo statuto. È soltanto espulsa perché ritenuta forse non degna dei cives il problema del danno dato, che prima era invece nello statuto. Qui se ne forma contemporaneamente uno statuto a parte, detto dal magistrato che lo sovrintende statuto del campaio, del camparius. Contemporaneamente viene rifatto anche lo statuto di mercanzia. È significativo che venga rivisto senza alcun intervento da parte del comune. Però nell'uno statuto e nell'altro c'è un riconoscimento reciproco. Il comune riconosce la mercanzia, si impegna a rispettare le norme di mercanzia e altrettanto fa la mercanzia. Ecco, direi che per Siena probabilmente questo è lo statuto, e lo vedremo anche perché, che rappresenta un po' l'acme di questa esperienza statutaria. L'idea cioè dello statuto come testo onnicomprensivo arriva matura a questo periodo, no? Questa ideologia della giustizia per tutti, specie per i deboli. Ecco, è un mito che rimane questo dello statuto, che può accogliere tutta la legislazione, ma che rimane appunto un mito, e vediamo perché. La pratica delle riforme annuali è già cessata al tempo di questo statuto, che è fatto e costruito proprio tecnicamente in modo da essere evidentemente un testo di lunga durata. Quando nel 55 cadono i nove, cioè questo lungo governo popolare che ha governato per un 80 anni, ci si limita solo ai ritocchi necessari politicamente e si fanno piuttosto, dopo il 55, delle leggi di settore, cioè le riformazioni approvate dai consigli, oppure si fanno delle leggi più complesse che oggi chiameremmo leggi finanziarie probabilmente, cioè delle leggi congiunturali in cui si prendono un po' in considerazione tutti i settori dell'amministrazione, si decide cambiare le competenze a certi uffici, in genere per risparmiare. Siamo nel periodo della grave crisi del secondo 300 e quindi sono quelle raccolte di norme preparate da balie, commissioni ad hoc, che poi verranno conosciuti come ordinamenta vetera e nova. Continua la prassi intanto di raccogliere le norme per singoli uffici. Qui forse posso però saltarvi qualche informazione più minuta. Ci sono delle raccolte ad esempio per la Bicherna, abbastanza interessanti, per una polemica contro lo ius civile, in cui si dice che appunto bisogna risolvere le questioni all'interno dello statuto perché fuori applicare analogicamente, eccetera, meglio l'equitas che l'ius civile, insomma. E poi ci sono altre redazioni di questo genere e un tentativo di fine 300 di raccogliere nuovamente, fare una nuova revisione statutaria. Non a caso, credo, nel momento in cui Siena entra nell'orbita viscontea, viene fortemente legata al a Gian Galeazzo. la redazione statutaria non viene fatta e allora si tenta intorno al 1400 una nuova strada per evitare il caos e assicurare la pubblicità della normativa. Cosa si fa? Si registrano in un libro di carta pecora sia i provvedimenti dei consigli che i provvedimenti del governo più importanti, quelli che si ritiene debbano avere una proiezione esterna, e viene chiamato espressivamente libro della catena. Questo però dura soltanto 6 anni, probabilmente ormai gli uffici erano troppi, anche quelli governativi, per poter inserire tutte le cose interessanti, e continua la prassi dei testi unici come quello del Monte dei Paschi, dei Paschi per il 1419 o del Maggior Sindaco per il 22. Si riconosce però che il problema dello statuto è sempre un problema che andrebbe risolto. In questo primo 400 si dice ad esempio che la situazione è tale per cui per lo stesso reato ora si riceve la testa mozza e ora si pagano invece 25 lire. Ci sono sentenze di questo genere, perché è la solita sottilità e le cavillazioni degli avvocati e dei procuratori in grande infamia della nostra città e del nostro reggimento. Delibera, si rimetta tutto assieme, si faccia un unico volume da dare a tutti gli uffici, si risistemi tutto. Il problema evidentemente c'era per una Repubblica Popolare, tanto orgogliosa quanto debole. E in questa delibera perché si vuole rimettere tutto assieme? Perché si vuole uno medesimo modo di vivere, proprio perché non c'era ovviamente, che ognuno sappia chiaramente sotto che regola e te legge debba vivere. E quindi quell'ideologia di primo 300 è ancora abbastanza chiara. Questo statuto però non fu redatto, si è pensato che ci fosse, si è parlato di statuto a Bernardiniana, e quindi aveva un po' confuso, c'è cioè una provvisione promossa da San Bernardino che ha un po' confuso la ricostruzione di queste vicende. 1425, sì, torna appunto con questi anche a Perugia. Cioè. In cancelleria bisognava però mettere le mani nella legislazione, e quindi abbiamo degli indici, dei volumi che contenevano leggi, provvisioni, eccetera. Ce n'è uno che raccoglie, che è un indice praticamente che va fino al 1370, poi ne fu compilato un altro fino al 1419, anno della morte del notaio, e poi ne abbiamo uno preziosissimo che si chiama tesoretto, è un vero tesoretto, perché è una specie di zibaldone in cui per le varie materie, come gli indici dei codici attuali, insomma, per le varie materie rinvia alla normativa in vigore, con aggiunte marginali che aggiornano appunto sulla situazione. Poco dopo però continuano le lagnanze. Nel 40 si dice: podestà e capitano di giustizia giurano sullo statuto, è vero, ma da poi non se ne faccia alcuna cosa, in vergogna e danno, eccetera, le solite appunto lamentele che minavano l'unità dei cittadini, perché si pensava naturalmente c'erano lamentele per un uso politico del diritto o indebite influenze politiche nell'amministrazione della giustizia. La situazione era evidentemente grave se nel 1451, premesso che senza gli ordini e gli statuti di una repubblica si può rettamente governare, ma che è inutile fare le leggi se poi non si rispettano, e si rileva in modo consolatorio che la nostra città è quella che ha i più ottimi statuti, era da più di un secolo che non si rifacevano, ma insomma, e provvisioni che città simili a lei, con i quali è dato il modo del vivere a più e più comunità e signorie circostanti. Si doveva riconoscere però che, soprattutto in materia di incompatibilità nelle cariche, per cui si era fatto appena 20 anni prima un testo unico, sono le cosiddette vacanze, no? L'impossibilità di cumulare cariche, ci sono delle consuetudini che sono contrarie alla legge e si vieta di applicare queste consuetudini in giudizio. Evidentemente invece di solito venivano portate queste consuetudini e i giudici applicavano queste consuetudini. Naturalmente eccettuano i libri dei mercanti, cioè le consuetudini che danno valore di probatorio ai libri dei mercanti e dei bottigai e a quelli dei cittadini per fatti di mezzadria o di altra cosa contro i contadini e i mezzaioli. Il provvedimento così in generale deve aver creato solo confusioni, perché qualche mese dopo abbiamo invece un provvedimento organico in cui si elencano le consuetudini contrarie alla legge. Ed è impressionante perché ce n'è una sfilza proprio, insomma, si va da lo stesso governo quando si riunisce fa certe cose che non dovrebbe fare secondo quello che giura, gli uffici finanziari non fanno quel che dovrebbero fare, i camerlenghi, gli ufficiali del contado, insomma c'è tutto un elenco, una tiritera francamente che vi risparmio. Che ci sia un mutamento di rotta credo difficile, perché il secondo 400 è politicamente molto molto tormentato persino, e quindi vede anzi un complicarsi delle fonti del diritto, perché ora cominciano anche le balie a deliberare autonomamente dai consigli, quindi il sistema normativo invece di semplificarsi si complica ancora. In mancanza di revisioni statutarie cosa si fa? Ecco, c'è ad esempio in cancelleria un prodotto che immagino di cancelleria perché è lì nell'archivio delle riformagioni, si fa una specie di dizionario legale alla fine del 400 mettendo, riportando sotto le rubriche le varie riformazioni e sugli i vari argomenti, cioè è l'alternativa della riforma statutaria, della revisione complessiva in sostanza. Si mette una rubrichetta de jurisdizione e ci si scrive quello che le provisioni che riguardano la de jurisdizio, de mezzaiolis, eccetera. La crisi politica, tutta incentrata sul problema del governo largo, non largo, eccetera, come a Firenze, insomma, non permette momenti di riflessione e di risistemazione che non avvengono neppure intorno al 1500, quando abbiamo una signoria per alcuni anni, l'unica signoria di fatto avuta da Siena. Arriviamo al 1541, ho quasi finito, vi chiedo ancora qualche secondo, qualche minuto diciamo. 1541, alcuni cittadini pongono seriamente il problema della revisione degli statuti, il progetto viene affidato a 4 giuristi e 2 avvocati, insomma poi a un'altra commissione di 12 nobili, legum latores. I nuovi statuti vengono promulgati nel 45, 1 gennaio del 45, e attingono largamente al lessico del diritto romano. Lo statuto è di nuovo in 4 distinzioni, è una legge formulata sempre in termini oggettivi naturalmente, tendenzialmente stabile, si eliminano il ricordo degli accordi con le comunità, insomma è una legge di lunga durata. L'intonazione romanistica è di nuovo già ad apertura, infatti come il Codex Giustinianeo comincia con cunctos populos e praticamente riadatta l'imperium senese quello che si dice nella cunctos populos, cioè che l'impero, tutte le popolazioni devono essere cattoliche eccetera eccetera, insomma quello che si dice per l'impero romano. Nel premio generale la fondazione della città si ricorda da parte di Senio, figlio di Remo, la dedicazione alla Vergine, introducono alla dignitas, veneratio e maiestas delle leggi senesi che si sono imposte all'ammirazione dei vicini, c'è questa grande dizio che poi verrà chiamato dominium più apertamente, dominium su centri di terra e di mare, persino su antiche città della Tuscia come Chiusi, là dove ha regnato Porsenna, e un porti, pascoli, miniere, boschi, eccetera, conquistati con le leggi più che con le armi. La giustizia sarà osservata communiter a tutti, di qualunque condizione e stato, secondo la forma iurium della Repubblica. Il Consiglio ora si chiama Senato classicamente ed è il princeps della Repubblica. Tutto dipende dal Senato e quindi, si dice chiaramente, quod principi placet, legis semper habeat autoritatem. Il governo e il concistoro darà una soluzione alle contrarietates legali che saranno messe, secondo già la previsione precedente, nel liber reformationum. Un sindaco fiscale tutelerà i diritti della Repubblica. La bicherna, i quattro bicherna staranno in luogo dei questori romani e del procurator Caesaris. Si ricorda Cicerone e si dice: bisogna che lo Stato, la città, guardi con attenzione agli interessi di tutto il dominium. A pochi anni dal crollo della Repubblica, che è del 55, lo Statuto rappresentò ancora un poderoso atto di fiducia politica e di consapevolezza delle proprie tradizioni culturali e pubbliche. Al di là della forma, i problemi c'erano. Erano già nello Statuto, che ad esempio lasciava in vigore gli statuta et ordinamenta vetera. Quindi è una riformulazione che tenta però di colmare le sue lacune lasciando in vigore quello che c'era prima. Però si dice, se proprio ci sarà una lacuna, andiamo al diritto comune. Lo statuto viene promulgato però già con la riserva di essere emendato, e nello stesso anno fanno declarazione additiones retractationes e non si stampa, mentre si era deciso di stamparlo immediatamente. Perché tanta fretta? È molto semplice, è lo stesso motivo per cui dopo due secoli di inerzia ci si decide finalmente a rifare lo statuto. C'è lo stimolo esterno, cioè la presenza di Carlo V, dei suoi inviati, delle sue truppe in Siena. E allora lo statuto qui ha un'altra natura in sostanza rispetto agli statuti precedenti. Lo statuto qui ora è la risposta ad una situazione politica estera difficile, e quindi diventa un condensato delle tradizioni politico-giuridiche senesi, una specie di programma da contrattare con l'imperatore, col fortissimo imperatore. E perciò si insiste tanto sull'imperium senese tradizionale, sul suo dominio, no? Ora che nella sostanza poi concretamente ci sono assai poco. Valga l'esempio della minuta disciplina del capitano di giustizia. Vi viene previsto, secondo la tradizione quattrocentesca, viene recuperato questo capitano di giustizia sostituendo gli otto di guardia. C'era stata una magistratura eccezionale come quella fiorentina, non ha lo stesso nome, otto di guardia di politici che avevano operato, pare, nel modo più arbitrario, per cui alcuni cittadini si erano lamentati con Carlo V di questa situazione. Ora si reintroduce il capitano di giustizia straniero. Naturalmente la Repubblica si riserva l'elezione di questo capitano di giustizia, si esclude la rieleggibilità, si circonda tutto il suo operato con una normativa estremamente dettagliata, proprio per vincolarlo a determinate cose. Ecco, sono dei desideri più che realtà. Il capitano verrà a Siena, ma sarà nominato dal Senato di Milano, delegato da Carlo V al luogo. Poi cominciano, abbiamo detto, le riforme. Oltre a quelle del 45, le abbiamo del 48-49, delle riforme che sono un'esecuzione di un ordine proprio ingiunto da Carlo V, che riforma politicamente la città. Lo statuto dedicato alla Vergine e ai santi senesi non teneva nessun conto, ignora l'imperatore naturalmente lo statuto, non teneva nessun conto dei rapporti reali di forza. Un'altra norma ci dà forse una qualche chiave per capire perché questo statuto, rimasto in vigore formalmente fino al 1808, non fu mai pubblicato. Ce ne sono molte copie manoscritte naturalmente proprio per questo, no? Una disposizione, ovviamente ha avuto anche delle riforme periodiche, ma c'è anche una disposizione che rimane in vigore nelle copie che si hanno intorno al 1800, vietava l'assunzione agli uffici dello Stato di Siena solo e sempre ai cittadini o sudditi di Firenze. E si noti che questa norma viene fuori nel momento in cui Cosimo è alleato di Siena. La norma non viene meno quando lo Stato di Siena diventa feudo dei Medici, perché in realtà gli uffici dello Stato formalmente rimangono riservati ai senesi. Gli uffici del feudatario, del signore, si sovrappongono alle magistrature tradizionali. Coevo c'è anche una riforma importante dello statuto del campaio, che arriva anch'essa fino al 700. L'altra cosa che per il territorio, oltre a questo statuto del campaio, bisognerebbe ricordare anche che il diritto sinese diviene presto sussidiario rispetto al diritto statutario delle varie località del dominio, con priorità rispetto al diritto comune. Non è soltanto un fatto senese, naturalmente, questo avviene anche altrove. Quindi il diritto, questo diritto statutario è importante al di là della città, perché in ampie zone del territorio deve avere trovato applicazione in alcuni casi. Perché? È perché c'è un problema che deriva dalla specifica organizzazione territoriale del senese, cioè Siena non ha mai promosso la formazione di distretti comunali ampi, non ha mai tentato di fondere i comuni. Una cosa sono ovviamente i distretti giudiziari e amministrativi sovracomunali, no? Quelle aree in cui si mandano podestà, vicari e così via. Altra cosa invece sono i confini comunali, che sono spesso estremamente ridotti nelle aree vicino alla capitale, e lo avrebbe anche fatto vedere chiaramente l'intervento di Pietro Leopoldo, che l'intervento riformatore di Pietro Leopoldo nel secondo Settecento fu rivoluzionario proprio per questo, perché fuse anche 20-30 comunelli in un unico comune, no? E dette vita a questi grandi comuni, ancora oggi è una zona di comuni ampi, grazie all'intervento di Pietro Leopoldo. Ora, in questa situazione ho l'impressione che proprio le entità comunali più piccole, cioè quelle che non avevano statuto, e noi sappiamo quale avessero statuto e quali no, dagli elenchi di approvazione di questi statuti, o parte di statuti conservati, i comunelli per intenderci, in questi probabilmente trovava applicazione direttamente il diritto statutario senese, perché non c'era nessun motivo di applicare lo statuto di un comune vicino che però non era il comune che governasse quel territorio. Altro problema ancora è quello delle comunità che in tempi diversi hanno avuto la cittadinanza senese. Sono veramente alla fine. Il fatto che si comporta questo della cittadinanza un'equiparazione da un punto di vista fiscale e vantaggi commerciali non deve anche far pensare alla estensione del diritto senese, però in questo caso. L'estensione della cittadinanza è probabilmente una misura più politico-finanziaria, forse anche per assicurare una rappresentanza al territorio, che non una misura di uguaglianza giuridica. I senesi una volta tanto non imitarono i romani del 212. Però è chiaro che gli stessi ufficiali inviati dal governo nel territorio dovevano avere, in quanto politici più che tecnici, una scarsa conoscenza del diritto, e quindi dovevano tendere, anche di quello locale intendiamoci, e quindi dovevano tendere ad un'applicazione del diritto senese, del diritto statutario senese. Un esempio è abbastanza sconcertante. Nel 600 in una di queste comunità si scopre che gli statuti, ci si rende conto che il testo degli statuti è troppo logoro, è illeggibile. Allora si decide non di riscrivere gli statuti. Si dice, beh vabbè, allora continuiamo con gli statuti di Siena. E quindi cambiano formalmente quello che doveva essere già evidentemente una realtà di fatto. Chiudendo, volevo ricordare solo due temi che in un'esposizione diacronica mi venivano fuori campo. Direi che, primo, che questo giusto interesse storiografico che rimedia per gli statuti, che rimedia ad un silenzio in Italia del passato, non in questi ultimi anni, ma ora c'è un po' questo boom, gli ultimi anni hanno rappresentato appunto un'esplosione di interesse per gli statuti. Direi che bisogna però fare attenzione non solo ovviamente quella ovvia alle edizioni incontrollate, su questo non c'è problema in questa sede naturalmente, bisogna piuttosto ribadire l'estrema eterogeneità di questa fonte, e anche questo si è già detto, ma la frammentazione e l'incompletezza, direi, di questa fonte. Perché a partire dal 200 inoltrato si presuppongono sempre più le soluzioni di diritto comune. Cioè si sa che ci sono delle teoriche, dei dottori accreditate ormai, e quindi spesso ci sono delle discipline che nello statuto non si mettono, insomma. Ecco, questo è una cosa ovvia, però bisogna tenerlo presente, insomma, perché a volte purtroppo le opere dei dottori sono di approccio un po' più difficile che non gli statuti, però è un problema da tenere presente. Quando c'è il silenzio dello statuto. Poi perché anche è sempre meno l'unica fonte di diritto lo statuto, per cui non bisogna escludere altre raccolte normative per certe corti o uffici. Abbiamo visto appunto la lacuna che riguarda il populus per Siena, ma bisogna riflettere anche su quella completa autonomia della mercanzia. Poi c'è questo problema della consuetudine che è venuto fuori in modo drammatico. Se non si trovava quella delibera, cosa avremmo detto? Che la consuetudine non operava. Certamente tutti non siamo così ingenui da pensare che non operasse, però insomma è un problema, cioè, da tenere presente. Bisogna poi tenere presente questa storia delle leggine, che sono estremamente importanti perché sono quelle che riguardano gli uffici, se ne è parlato un po' ieri, no? Si è già cominciato a fare questo discorso, perché le leggi elettorali, le leggi sulle podesterie e così via, sono leggi appunto che cambiano secondo hanno molto elastiche in base alle necessità, all'ampliamento e diminuzione del territorio, rapporti politici, per risparmiare, per non risparmiare, cioè è ovvio che non siano negli statuti o che siano in una parte mobile dello statuto come le regole di cui parlava, no? Dicevo, queste leggine però sono così importanti che ad esempio per me l'organo costituzionale più importante del 400 senese negli statuti non c'è, è venuto fuori soltanto grazie a quel tesoretto di cui si parlava prima. Ecco, per cui bisogna anche dire statuti sì, ma attenzione a non trascurare la legislazione meno nobile, la legislazione di tutti i giorni, così come non bisogna trascurare i capitola dei libri iurium, perché i capitola dei libri iurium aggiungono o modificano, si sovrappongono alla normativa statutaria anche dei comuni soggetti. Cioè io faccio un esempio perché mi è rimasto abbastanza impresso questo. Ad esempio in alcuni capitola, cioè accordi tra la dominante e i comuni dominati, a un certo punto la dominante concede che il giustiziente non potrà procedere a mettere a tortura nessuno degli abitanti locali se non con l'autorizzazione della giunta di governo locale del villaggio. Quindi io credo che anche questo abbia una certa importanza. Per il resto questo ve lo lascio. Ultima cosa, ecco, direi, quindi dal caso senese viene fuori che si fanno le grandi revisioni statutarie solo in grandi occasioni, direi, quando cioè ci deve essere qualche motivazione politica eccezionale, in sostanza, altrimenti abbiamo la routine, legislativa, mi sembra di capire, e queste continue lagnanze, questi continui tentativi di rifare gli statuti, di mettere ordine, finiscono per rimanere nel vago, finiscono per non trovare applicazione, anche perché dobbiamo tener conto dell'interesse dei ceti professionali. Ecco, questo che viene fuori anche molto chiaramente da un documento senese in cui appunto si dice che gli avvocati ne combinano di tutti i colori, insomma, no? Che si discute in continuazione se sia in vigore la norma vecchia o nuova, quando è l'occasione sostengono che la più recente non ha abrogato la più vecchia e quindi siamo nelle mani dei legulei, e gli strumenti però che avevano a disposizione fino al 400 erano inadeguati a far fronte alle necessità. C'era bisogno di ben altro, no? C'era bisogno probabilmente di un'organizzazione più professionale, di controlli gerarchici, di motivazione, insomma c'era bisogno, per cambiare un po' il quadro, di quelle cose che vengono fuori appunto nel primo 500. Grazie. Io chiedo scusa per la lunghezza, Presidente, però vorrei ancora far vedere due diapositive come appendice. Noi abbiamo due diapositive, bisognerebbe prima di uscire forse per l'intervallo, no? c'è un signore, sì, c'è un signore che ha già, dovrebbe essere fuori. Non è a Olmi, Beppe. Sì, andiamo un attimo su. Già, perdono. Già, giusto. Also, ich habe die, weiß Gott nicht, bequeme Aufgabe, diese Tour d'Horizon von Herrn Aschieri zusammenzufassen, der uns in seinem Referat ja die Entwicklung der städtischen Gesetzgebung Jenas vom ausgehenden 12. Jahrhundert bis zum Beginn der medizinischen Vorherrschaft im Jahre 1555 bis 59 ungefähr dargestellt hat. Er weist hin auf in seinem Referat auf mehrere Konstanten. Die letzte davon hat er, oder die wichtigste davon, hat er gerade in seinem Schlusswort nochmal betont. Er sagt, in Siena kommt es in der Regel zur Neuredaktion von Statuten in größerem Umfang immer dann, wenn sich die politische Großwetterlage ändert. Dafür hat er auch in seinem Referat dann mehrere Beispiele genannt, die ich im Einzelnen dann bemerken werde. Das erste geschlossene Statutenwerk Jenas, das uns seit 100 Jahren nicht mehr gedruckt vorliegt, sind die Statuten des Jahres 1262, in denen, wie Herr Aschieri ausführte, uns die Seneser Statuten schon in reifer Gestalt entgegentreten, also zu einem Zeitpunkt, wo die Statutenentwicklung als solche schon auf einem relativ entwickelten Stand angekommen ist. Rückschlüsse auf frühere Statuten können wir ziehen durch überlieferte Bruchstücke, zum Teil auch durch einzelne Passagen dieses Statutenwerkes von 1262. So eine der Konstanten der Seneser Statutenentwicklung, eine Bemerkung, ein Hinweis aus dem Jahre 1176, wo ich nicht genau mitbekommen habe, was die Quelle zu diesem Hinweis ist. Die Seneser Konsuln erklären die Zugehörigkeit Sienas zum römischen Recht deklamatorisch. Aus dem Jahre 1208 liegt uns, beziehungsweise Herrn Aschieri, ein größeres Pergament vor, auf dem Verhaltensmaßregeln für den Podestà und für andere kommunale Institutionen aufgezeichnet sind. Dieses Pergament trägt keinen Titel. In Siena werden sie allgemein die Normen genannt. Le Norme, aus der Tatsache, dass dieses Pergament keinen Titel trägt, schließt Herr Aschieri auf die Charakterisierung dieser Phase in Form einer mangelnden Typisierung der juristischen Normen. Also es fehlt eine saubere Typologie oder eine saubere Terminologie. Im Jahre 1228 finden die Kapitel der Liga gegen Florenz Aufnahme in die Statuten. Aus der Zeit vor der Redaktion des ersten vollständigen Statutenwerks 1262 existieren ca. 50 Brevia für die verschiedenen kommunalen Ämter. Dann kommt Herr Aschieri zu sprechen auf die Statuten von 1262 selbst. Er weist darauf hin, dass diese Statuten zu sehen sind, ihr Entstehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Sieg der Ghibellinen im Jahre 1260. Ich weiß nicht genau, wo diese Schlacht stattfand, ist mir entgangen. Die Statuten gliedern sich nach dem Schema des Codex Justiniani in 5 Distinctiones. Das beginnt mit der Fide Catholica, dann geht es wieder zum Prozessualrecht, dann wird das öffentliche Gut abgehandelt, Straßen, Brücken und so weiter, dann kommt der Bereich des privaten Rechts und schließlich in einem fünften Teil der des Strafrechts. Aus den 1270er Jahren ist eine modifizierte Fassung der 1262er Statuten überliefert, an deren Ende sich der bemerkenswerte Hinweis findet, dass alles zu respektieren ist, was in diesem Statutenwerk steht, aber dass die 36 Priori der Kommune frei und ungehindert in ihren Regierungsgeschäften vorgehen müssen, sollen und dass deswegen die Ausübung der realen Gewalt hier und da scheint vor den Dispositionen der Statuten Vorrang hat. Dann geht Herr Askeri über auf den auf die Statuten aus der guelfischen Zeit. Dort kommt es in den 30er Jahren. Das muss jetzt mit mir scappato questo questo transito agli statuti dell'epoca guelfa. Questo annesso di una sesta sezione agli statuti. Ah, e questo data di che epoca? È nel 200, im späten 13. Jahrhundert in den Statuten aus den 1270er, 1280er Jahren kommt es zum Anhängen einer sechsten Sektion in den Statuten, in denen auf die Gestaltung und auf die Aufgabenkompetenzen der Regierung in starkem Maße eingegangen wird. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine Verlangsamung der Arbeit der Gesetzgebung bzw. der gesetzgebenden Körperschaften. Die bis dahin geltende Tradition der jährlichen Reformen oder Reformagioni verlangsamt sich auch. In den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts erhalten ein gelehrter Jurist, Legum Doctor, und ein Bürgergremium den Auftrag, eine Kompilation der mittlerweile ins Unermessliche gewachsenen Vorschriften anzufertigen. Aus derselben Zeit datiert die Raffiguration der Senoneser Kommune in klarer Analogie zu Rom mit der Lupa zu Füßen der personifizierten Stadt Siena unter Verzicht auf jede weitere ekklesiastische oder aus dem Laienbereich herstammende Symbolik. Zu gleicher Zeit, bemerkt Herr Askeri, lässt sich beobachten der Wegfall des Regentschaftsjahres des jeweiligen Kaisers in den Seneser Notariatsakten, woraus sich auf eine Reklamation des Kommune, also auf eine Reklamation von Souveränitätsrechten des Kommune rückschließen lässt. Ende des 14. Jahrhunderts erneuter Versuch einer Statutenreform, dies bedingt durch Konstante der politischen Entwicklung, Eintritt Sienas in den politischen Gravitationsbereich Mailands, den Griff Gian Galeazzo Viscontis in die Toskana. Das lasse ich vielleicht lieber weg, wenn es mir schneller entgangen, wo das hier stand. Herr Askeri bemerkt im Weiteren für das 15. Jahrhundert eine weitere Komplikation der städtischen Gesetzgebung anstelle einer Vereinfachung, die man eigentlich erwarten sollte. 1541, damit sind wir schon in der Schlussphase der Seneser Republik, verlangen die Bürger eine erneute Statutenreform. 1545 kommt es zur Promulgation dieser neuen Statuten. Erneut eine starke romanistische Ausrichtung, die sich bereits in der Terminologie, in der Einleitungsformel des Statutenwerkes niederschlägt. Das war die Formel, die Herr Askeri, die zwei, drei Worte, die Herr Askeri gerade aus dem zitiert hat. Der Senat stellt sich da als Fürst der Republik, also eine deutlich oligarchische Selbstdarstellung der Republik. Dabei muss ich gerade, vielleicht wäre das eine erste Frage zu Ihrem Vortrag, ob Sie auf dieses Institut der Quattro della Bicerna oder Bibicerna nochmal eingehen könnten, sich dazu nochmal kurz äußern, weil mir das unklar geblieben ist. Wesentliche Eigenschaft dieser letzten Statuten aus den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts liegt darin, alles das, was sie an gesetzlichen Dispositionen auflassen, doch der Regelung durch ihre Vorgängerwerke zu überlassen. Praktisch befindet sich Siena schon zu dieser Zeit unter starkem Einfluss des Karls des V. 1548-49 finden in Siena Reformen statt, die von Mailand aus angeordnet werden. Zum Schluss kommt Herr Askeri auf seinen, wie auch der Titel des Referats sagt, angedeuteten Aspekt des Konnex zwischen Seneser Recht und Lokalrecht zu sprechen, also den Lokalrechten der Kommunen im Distrikt Sienas. In der Anfangszeit, also etwa im 13. und 14. Jahrhundert, wird das Seneser Recht sehr schnell als subsidiäres Recht zu den lokalen Rechten des Distrikts hinzugezogen. In den kleinsten Distriktskommunen fand, wie Herr Aspiri ausführt, das Senese Statutenrecht deswegen, weil diese Kommunen zu klein waren, um selber Statutenwerke zu entwickeln, direkte Anwendung. Die Ausdehnung des Seneser Bürgerrechts sieht Herr Aspiri mehr als finanziell-fiskalische Maßnahme, denn als Maßnahme zur politischen Gleichberechtigung der Bürgerschaft im politischen Einflussbereich der Metropole oder der Kapitale, sagen wir vielleicht lieber Sienas. Zum Schluss schildert Herr Aspiri dann noch den kuriosen Einzelfall einer Gemeinde im Distrikt Siena, die aufgrund der Unleserlichkeit ihres Statutenwerkes nicht etwa dessen Neuniederschrift anordnet, sondern sich kurzerhand dazu entschließt, schlichtweg die Sieneser Statuten zu übernehmen und das mittlerweile unlesbar gewordene Werk der Vergangenheit zu überliefern. Zur Zusammenfassung, Herr Aspiri hält fest, als Besonderheiten des Sieneser Statuten die mangelnde Regelung des Bereichs des Handels, der Merkanzia, das Problem der Anwendung der Consuetudines und die mangelnde Regelung der Kompetenzen des Populus im 15. Jahrhundert. Quello che costituisce intorno allo statuto quelle che sono altre fonti di diritto. Quindi io chiederei se ci sono domande. Quaglioni, vuoi venire? No, ti porto lì. Grazie. Vorrei rivolgere due brevi domande al professor Aspiri. Tra le molte interessanti cose che egli ci ha detto, due mi hanno soprattutto incuriosito. La prima riguarda lo statuto che Aspiri ha chiamato del buon governo. È sembrato, credo, che tu sottolineassi, mentre ne descrivevi le caratteristiche, la vastità della normativa compresa, la esclusione del riferimento al ius commune, la tendenziale completezza. È sembrato che questi fossero quasi i tratti distintivi non di uno statuto, ma di un piccolo codice. Non so se l'esempio senese possa in qualche modo contribuire a rimettere in discussione distinzioni, classificazioni ormai diventate quasi canoniche. Lo statuto, si dice spesso, è in sostanza pur sempre una consolidazione. La domanda era questa, visto che ci troviamo quasi in pieno 300, si è per caso verificata quella situazione che paventavano giuristi dotti come Raniero Arsendi, come Alberico da Rosciate, cioè che uno statuto abbia potuto tollere totum ius commune in certo senso? L'altra domanda riguarda il rapporto con la dottrina. Dall'inizio alla fine, dal 1173 al 1545, il rapporto con i dottori e con la dottrina c'è. Nel 1173 tu hai detto qualcuno insegna diritto a Siena. Nel 45 ci sono quattro giurisperiti che concorrono alla redazione dell'ultimo statuto. In qualche modo quindi si può dire che realmente la tradizione romanistica, se non il diritto romano, abbia, come dicevano i dottori, informato e rivestito lo statuto per diversi secoli. Allora io ti chiederei se c'è un rapporto accertato, e in che modo, con lo studium, se c'è una produzione di dottrina, se ci sono dei consilia, se ci sono cioè esempi analoghi a quelli che ricordava ieri il professor Savelli. Grazie. Ma sai, questo problema della consolidazione o della codificazione, no? È un problema che noi abbiamo caricato di grandi significati dalla rivoluzione francese in poi, per così dire, no? O meglio, quando si è deciso che il codice dovesse essere fonte esclusiva di diritto, no? Quindi è un problema ottocentesco, diciamo. Non credo che si ponessero un problema di questo genere con la drammaticità ideologica con cui noi lo pensiamo, un problema di questo genere. Cioè non era una lesione di sovranità il fatto di che certe materie fossero disciplinate dal diritto romano, non mi sembra, insomma, soprattutto perché lo statuto stesso si riconosceva come parte di quella cultura romanistica, era una specificazione di quella cultura romana. Quindi se il diritto dei dottori in certi settori poteva essere riconosciuto, poteva trovare applicazione perché avevano escogitato delle ottime soluzioni a determinati problemi, perché non riconoscerlo, insomma? Cioè c'erano dei tecnici, dei professionisti che lavoravano per affinare la soluzione dei problemi giuridici, al di là dei conflitti politici, al di là, cioè creare una specie di diritto oggettivo, di un diritto che potesse valere al di là delle peculiarità locali e nazionali. Se trovavano delle soluzioni buone, perché non dovevano utilizzarle? Non vedo veramente, cioè un'opposizione ideologica che credo abbiamo creato molto noi, insomma, che abbiamo questa idea che il codice non deve avere delle fonti di eterointegrazione, insomma, no? È una cosa da filosofi del diritto più che da storici, direi, guardando il nostro genovese che ne ha tanti intorno di filosofi, appunto. Ecco, quindi io credo, francamente, poi come al solito, ho l'impressione che qui, cioè dal punto di vista culturale, fossero più avanti di quanto si potesse poi tecnicamente e politicamente fare. Perché pensiamo a questo fatto: se il governo avesse veramente, se ci fosse stata un'organizzazione giudiziaria più, non diciamo perfetta, ma più coerente, un'organizzazione non così traballante anche, no? Con questi giudici che cambiavano in continuazione, e gli stessi politici non fossero cambiati in continuazione, perché questo è anche il problema, che c'era un governo bimestrale e poi dopo due mesi c'era un altro governo, no? Però il governo aveva teoricamente il potere di colmare le lacune del diritto. Quando si dice appunto che nei casi dubbi il governo è chiamato ad esprimersi, se questa possibilità teorica fosse stata sfruttata, si poteva francamente evitare il ricorso al limite, evitare il ricorso al diritto comune, o altrimenti prendere il diritto comune e dire: ma nella nostra situazione va bene questo diritto comune. Naturalmente io non ho avuto nessuna traccia di un intervento però del governo. Nei libri delle riformagioni del Consiglio questa possibilità è rimasta soltanto teorica, e non mi meraviglia, perché con politici che avevano tutt'altre cose da fare, diciamo, ed erano inguaiati con mille altri problemi, pensare che dovessero andare ad entrare in una disputa tra l'opinione di Bartolo e di Baldo o sulla necessità di integrare lo statuto in un caso limite portato in tribunale, mi sembra veramente praetor de minimis non curat, mi sembra quasi di dover dire in questi casi, insomma, no? Che è una cosa da privati, che se la giustino loro davanti, cioè ho l'impressione che non ci fosse quel così grande interesse pubblico perché il governo dovesse occuparsi se il consobrino poteva ereditare. Ecco, sono questioni, bisogna anche ricordarci un po' della dimensione dei problemi ogni tanto, ecco. Questo mi sembra. Rapporto con i dottori, ho l'impressione che sia sempre stato fortissimo, non per niente lo statuto, questo che direi di chiamare del buon governo, in appendice a un consilium che risolve appunto una questione di diritto delle donazioni, praticamente chiarisce una questione del... non è datato, probabilmente fu chiesto dal governo appunto, ecco, su una questione, c'è cioè proprio in appendice a questa, che è una copia certamente ufficiale, perché tra l'altro è una miniatura straordinaria, c'è proprio un consiglio allegato, non datato, ma che chiarisce un problema connesso appunto all'interpretazione dello statuto. Quindi è sempre stato un rapporto molto stretto, però con diffidenza dei politici nei confronti dei dottori, cioè i dottori servono, devono esprimere insomma le loro, anche la commissione degli statuti, sia questo del 37, 1337, che quella del 500, aveva sia dottori che appunto politici, era una commissione mista insomma, e quindi ho l'impressione che si volesse comunque controllare che cosa le proposte che facevano i tecnici del diritto. Non so se è sufficiente, Diego. No, no, per carità, no, scherzavo. Ich habe eine Frage, die sich auf eine abschließende Feststellung Ihres Vortrags bezieht, weil Sie noch einmal hervorhoben, dass größere Statutenredaktionen oder Reformationen in Siena nur zu besonderen Gelegenheiten, meist eben aus politischem Anlass, durchgeführt wurden. Und ich wollte fragen, ob man nicht zumindest für die frühere Zeit, ich beziehe mich hier im Wesentlichen auf das 13. Jahrhundert, eigentlich auch noch einen anderen Aspekt hinzuziehen könnte, nämlich einen praktischen, verfahrenstechnischen Aspekt. Ich meine, indem immer mehr Bereiche in immer differenzierterer Weise in die städtische Gesetzgebung einbezogen wurden, gerade im Verlauf des 13. Jahrhunderts, was dazu führte, dass die Bearbeitung auch der Statutenkodizes immer ausgreifender wurde. Das heißt, dass immer mehr Aditamente hinzukamen, Kanzellaturen und so weiter, die einfach auch die Benutzung dieser Kodizes nach einem gewissen Zeitraum nicht mehr, also unmöglich oder zumindest sehr schwierig machte. Weil wir das haben beobachten können, zumindest in den oberitalienischen Kommunen, dass also da bestimmte Zeiträume, in bestimmten Zeiträumen solche Redaktionen stattfinden und teilweise natürlich auch politische Motive mit reinspielen. Also nicht, dass das eine das andere ausschließt, aber dass zumindest für die frühere Zeit auch. Cioè, se ho capito bene, appunto, riprendeva quella affermazione in cui dicevo vengono fuori per motivi in momenti politici particolari, eccetera, mentre ci sarebbero appunto delle questioni tecniche anche nella redazione, indubbiamente, su questo senz'altro. Però ecco, volevo dire che il problema tecnico da solo, almeno in quei casi, non ha consentito, c'era bisogno anche di qualche sollecitazione, per il caso del 500. Nel 300 è vero che non c'era una situazione politica particolarmente pressante, non era cambiata molto, forse, cioè non erano anni. Dunque, quell'affresco è del 1338 e contemporaneamente gli statuti sono elaborati tra il 37 e il 39, no? Ecco, non c'era una situazione politica particolarmente difficile per cui lo statuto dovesse essere redatto per metterlo di fronte a un qualche potere esterno, ecco, no? Questa situazione non c'era. C'era però un momento di crisi in cui probabilmente, ecco, del governo popolare cominciava a essere in crisi e dopo pochi anni cade, infatti, in cui probabilmente fare anche quel tipo di manifesto ideologico che è l'affresco, fare anche una bella redazione statutaria mettendo assieme il tutto, insomma, cioè quindi ribadire l'ideologia popolare del governo per tutti, no? Ecco, questo poteva anche dal punto di vista politico poteva servire in sostanza. Poi soprattutto forse in quel momento si sentì maturo la situazione politica per eliminare la separatezza del populus, cioè veramente non si hanno più tracce di ordinamenti a lato. Però sono d'accordo con lei in effetti che c'era anche questo problema dello statuto con tutte queste aggiunte che poi venivano cancellate, che si doveva sempre riscrivere. Ja, zumal sich auch in dieser früheren Zeit eine qualitative Weiterentwicklung mit den einzelnen Redaktionen beobachten lässt. Das heißt, der Übergang zu einer immer systematisierenden Form, also zum Beispiel von der chronologischen Gliederung zur inhaltlichen, dann zur Einteilung der Bücher und so weiter. Un salto di sistematizzazione. E questo è collegato anche però alla crisi del regime podestarile. Cioè, mentre prima lo statuto è un programma per il podestà, in parte, non è solo quello, ma insomma è un programma per il podestà, invece ecco lo statuto a metà 300 diventa un programma per lo Stato. Ecco, cioè c'è un salto veramente, no? Mi sembra che ci sia un salto qualitativo. Per questo che ha ragione Diego Quaglioni ha avuto l'impressione che si parlasse di un codice in realtà. Sì, perché diventa un testo oggettivo, non ci sono neppure più norme soggettive, non ci sono più norme io farò, io riconoscerò. C'è una disciplina oggettiva di uffici, di territori, di questioni varie che dovrebbero essere le permanenti, non più quelle su cui ogni anno. E infatti gli emendatores vengono meno, praticamente gli emendatores scompaiono, insomma. Chiedo scusa. Nein, Entschuldigung, dass man auch über dieses formale Element sich bemüht, das Subjektive auszuschalten, indem man zum Beispiel die Form der Kanzellatur genau regelt, wie das durchgeführt werden muss, durfte. Also dass man auch eben durch diese formalen Elemente versucht, das Subjektive oder willkürliche Änderungen auszuschalten. Ah, ma certo. Puoi tradurre per tutti? Per tutti noi, non abbiamo capito bene. Io non ho capito bene questo. Sono molto brava. Volevo dire che tramite questo elemento formale che mostra una tendenza di unificazione, si provava anche di eliminare un elemento soggettivo e di, del podestà che promette. Sì, scompare il podestà che promette. È per questo che si sono potuti avvicinare a Giustiniano, diciamo anche così, in modo un po' da megalomani, ma insomma, cioè le norme finiscono per avere una redazione di tipo oggettivo. Non so se basta. Ci sono altre domande? Allora, Benedictus Saverni Bush. Non ho visto che ha alzato più di una volta. Molte grazie, benissimo. Tutta questa problematica della sistemazione del diritto statutario mi sembra veramente, anche a parte tutto l'aspetto politico che ci potrebbe essere dietro, lasciamo, per questo complica ulteriormente le cose, cerchiamo un po' di renderci le idee più chiare solo su questo fatto della sistemazione, che mi sembra molto importante. Tu ci hai presentato la prima redazione sistematica del 62, hai parlato di 5 libri. Sì. Si chiamano libri? O? No, sempre distinzione. Ah, ma questo è già un... tu ci hai anche accennato. Dotto. Non mi sembra che sia da connettere con il decreto di Graziano. Però ci siamo già e c'eravamo anche ieri sera, questa terminologia tecnica, e ieri avevamo da Genova l'esempio di regola. Regole, sì. Capitoli, nessuno è riuscito finora, se ho capito bene, di ritracciare le origini di questa terminologia, anche qui le distinzioni forse sono anche una invenzione proprio a Siena, no? non escluderei. Ritorniamo su questa sistemazione. I libri, questi 5 distinzioni sono organizzati bene all'interno? Beh, sai, insomma, nel 1262 c'è una parte ancora riconoscibile che è il breve del podestà in sostanza, e poi le altre parti sono un po' aggiunte, sai, sono fatti alluvionalmente, insomma, sono delle redazioni che sono, bisognerebbe avere un termine di paragone precedente che non abbiamo. Sottosezioni di questi cinque distinzioni in capitoli o come sono? No, ci sono solo le rubriche per ogni capitolo, sì, c'è la rubrica, sì, c'è solo la perché rubrica. Qui ci siamo proprio a un problema al quale ha accennato anche il dottor Quaglioni, questa organizzazione mi sembra uno dei fili di renderci le idee più chiare, sì, certo. Forse anche vale anche come un metodo di confronto fra la situazione italiana e quella tedesca, no? E per fare solo un esempio come si potrebbe andare avanti, il professor Quaglioni ha giustamente osservato che si deve andare avanti confrontando caso per caso, sì, certo. Ci mancano tanti studi preliminari, esatto, in questo, esatto, campo. Prendiamo l'esempio di Bologna, che mi sembra molto significativo, sì, sì. Non devo elaborare su questo, però la cosa strana è che almeno in confronto a Siena e anche a qualche caso che è già stato esposto ieri e ieri qui, i bolognesi sono indietro, proprio in in questo campo di metodo e di tecnica legislativa. La prima compilazione sistematica è del 1288 e gli editori Gina Fasoli e Pietro Stella erano molto entusiasti nella prefazione, fanno un gran elogio. di questa come fosse ben organizzata, però visto da vicino non è c'è tanto esattamente tanti strati e tante materie mescolate e ci sono delle più varie materie inserite ai posti più insoliti e più inadatti. E qui ci siamo già, chi era davvero, a Bologna si dovrebbe aspettarsi la più perfetta organizzazione che ci sia, però forse non è così. Volevo solo dire che proprio questo filo della sistematica e dell'organizzazione, dei primi tentativi di organizzazione mi pare molto importante. Già ce ne ho detto varie volte qui, però vale la pena di sottolinearlo. Ringrazio Martin, è proprio un tema... Ancora? Sì. Ma sono residui, insomma, sì. Sì. Sedimentazione. Ah beh, certo. No, questa preoccupazione, questa indicazione che lancia Bertram è interessante, questo anche dal punto di vista sistematico le comparazioni possono essere molto importanti. Però ecco, appunto, in questi casi bisogna sempre tenere presente che erano anche molto costose queste operazioni, soprattutto anche in termini di tempo proprio, no? Se si tiene presente che nel 200 dovrebbe essere un programma annuale lo statuto, quindi che si fa ogni volta si... No? Non lo so. Sì, la commissione... No, sì, infatti. No, invece gli emendatori avevano per legge proprio 8 giorni, stavano segregati senza possibilità di contatto per 8 giorni, sì. Altra cosa naturalmente sono poi i tempi tecnici di stesura delle addizioni, naturalmente, questa è un'altra cosa. Dei quelli che hanno chiesto di parlare, qualche domanda si riallaccia più direttamente a questi temi? Allora procediamo in ordine così. Sì, così si evita. Allora, mi ha colpito molto un punto che probabilmente non è centrale nella tua relazione, ma che a me interessa per fare un confronto con la situazione bolognese. Cioè a un certo punto, all'interno del discorso della non unicità dello statuto come elemento di diritto, hai detto che per esempio l'organo più importante costituzionale di Siena nel 400 non è compreso all'interno degli statuti anche nelle rubriche che riguardano i cosiddetti libri politici, insomma come si chiamano da molte parti, no? In molti statuti. Ecco, questa cosa mi interessa molto perché anche a Bologna nell'ultima redazione statutaria, che è quella del 1454, fatta già, lo ricordo brevemente così perché è un problema complessivo politico, quando Bologna non è immediatamente soggetta allo Stato della Chiesa, ma proprio qualche anno prima c'era stato un capitolato, insomma i capitoli fra Niccolò V e il governo cittadino, per cui il governo cittadino riconosceva sostanzialmente la sua sudditanza nei confronti del papato, no? Questi statuti del 1454, che sono un corpus enorme, diviso in 7 libri, dei quali non è studiato questo, non sono mai stati studiati questi statuti, in parte sono stati editi nel 500, nel 600-700, ma mai integralmente. Diciamo la parte di questi statuti in percentuale, insomma come numero di rubriche e di carte, no, che è dedicata all'organizzazione politica e governativa del comune, corrisponde circa un terzo complessivamente. C'è una distinzione molto molto articolata delle magistrature maggiori, ancora dei consigli grossi che non avevano anche più potere, anche delle magistrature minori, anche quelle del contado, no? Ecco, all'interno di tutta questa enorme parte dedicata al governo politico non è compresa la magistratura maggiore della città e del comune, anche del territorio del contado, che nello specifico caso si chiama 16 riformatori dello Stato di Libertà e quello che poi diventa il Senato Patrizio 50 anni dopo, no? Anche se in realtà questa magistratura era già esistente da una sessantina d'anni ed aveva un compito costituzionale di controllo di correttezza degli atti delle altre magistrature. Non solo, ma all'interno di questa magistratura, quando si devono scegliere gli statutari che devono fare questa compilazione, la maggior parte, diciamo, degli statutari sono membri di questa magistratura, la quale però non è assolutamente prevista, non è assolutamente, non si parla di questa magistratura. Ecco, questo mi sembra, così, ecco, è solo un'impressione, mi sembra un problema grosso, anche perché questa magistratura continua poi a produrre provisiones, naturalmente, che ad esempio, ecco, questa è solo una cosa che posso riferire, nelle edizioni degli statuti, già a partire dalle prime, fatte da, per esempio, una delle prime, quella di Gozzadini, di un illustre giurista bolognese, fatta nel 500, alcune delle provisiones fatte da questa magistratura sono comprese insieme alle rubriche statutarie degli statuti veri e propri del popolo e del comune, come si chiamavano, che vengono edite. Ecco. Ti sottopongo questo problema per vedere se anche a Siena c'è una situazione simile, insomma. Sì, io penso che sia abbastanza, può essere frequente. Volevo chiedere, questi 16 riformatori sono stati istituiti da una qualche riformagione, da qualcosa però, no? No, ecco. Cioè, questa è come una balia che viene costituita e poi per motivi politici continua a deliberare a latere, no? degli organi politici normali. Però ecco, questo problema di una normativa che è esterna allo statuto, per Siena mi è di nuovo confermata, non soltanto il Consiglio del Popolo rimane fuori dello statuto perché lo statuto è stato fatto prima, quindi da un punto di vista formale sarebbe ovvio, da un punto di vista formale. Però l'organizzazione politica, non c'ero entrato e ve lo dico rapidamente, era organizzata per monti, va bene? Per gruppi di appartenenza familiari. Ecco, questa è al di fuori completamente degli statuti. Cioè anche questa materia, che pure è fondamentale, l'organizzazione delle compagnie, ad esempio, militari, di quartiere, che pure c'erano, anche lì non sono disciplinate nel 400. Ho l'impressione però che queste siano cose non così... punto interrogativo, o è una prassi di tipo politica, è rimasta l'organizzazione per compagnie e c'è nel primo 300, sicuramente c'è, non ci sono nuovi provvedimenti però, il che sembra un po' strano, insomma, che in tanto tempo non ci siano dei provvedimenti, possibile che fossero diventate così consuetudinarie, questo è anche possibile, però ho l'impressione che potrebbe essere anche che si tratti di una realtà di fatto esterna, o fino a un certo punto di fatto con delle proprie regole interne poteva avere, esterna al comune, un po' come succede oggi con i partiti, no? Che hanno delle regole esterne al comune, allo Stato, e che poi lo condizionano, e come, cioè voglio dire, pensiamo ai partiti di oggi, signori, perché questa è una cosa, noi abbiamo delle istituzioni di fortissimo rilievo pubblico e politico che non sono disciplinate praticamente dalle leggi statali, perché rimangono sul piano dell'autonomia associativa, per cui di cose fondamentali come la vita interna di questi enti domani non si saprà niente. quando si vorrà fare la storia di certe cose, certamente dagli archivi dei partiti non verranno fuori, nell'archivio dello Stato non si troveranno per definizione, e quindi alcune scelte fondamentali rimarranno completamente fuori della nostra percezione. No, questo per dire, cioè, che l'organizzazione di questi gruppi di potere, insomma, no, più o meno legali, più o meno disciplinati, possono aver avuto un'organizzazione a latere, insomma, del comune. Il comune è il terreno comune, appunto, in cui ci si incontra nobili, popolari, eccetera. Il populus può conservare una certa ma se è stata fatta da una reformatio, può essere una balia, appunto, costituita dal comune. Sì, questo è un altro caso. No, ma questo infatti il tuo è un altro caso. Però se è stata istituita, è come una balia di quelle che poi si prorogavano, si autoprorogavano, insomma, quando deleghi un potere normativo ad una commissione, mi sembra più una balia di tipo, ce ne sono, insomma, no, anche a Firenze, che poi si... cioè c'erano balie o... No, balie c'erano già nel 300, nel secondo 300 come a Firenze. No, dicevo, non ci sono norme sui monti, ad esempio, che sono quei raggruppamenti politici, ecco, quelle mancano completamente. Cioè tu trovi poi nella documentazione pubblica, sai che Tizio era di questo monte, come sai che quell'altro, però non sai come concretamente poi avvenisse, fosse regolata la partecipazione, l'ammissione, l'esclusione. Cioè non fa parte della sfera statale, insomma, è un... No, i monti sono, sì, come capisci, un po' come i vecchi ghibellini, i guelfi, ecco, come delle parti, sono come delle parti che hanno una propria autonomia prestatale, insomma, a lato dello Stato, insomma. Appunto, sì. No, questo era soltanto per confermare la frammentarietà della disciplina che trovi negli statuti, ecco, soltanto. E ora ricevo, quando poi tu hai delle balie addirittura che disciplinano a latere, che sia comunale o meno, appunto, questo ti conferma la gravità, per cui le fonti bisogna guardarle complessivamente, appunto, è il discorso che si faceva. In parte hai già risposto a una delle domande che volevo porti, cioè quello che volevo chiederti era come si fa a entrare a far parte del populus, cioè quali sono le vie e se vi è corrispondenza fra ciò che la normativa dice e le pratiche. Perché io, per esempio, nelle regole sia del 363 che del 413 ho questo continuo riferimento al fatto che i conestagi, i confalonieri devono portare i nomi delle persone atte al governo al vice doge. Ecco, ma come questi facessero? Certo. Resta misterioso. Direi che anche nel caso genovese si conferma questo passaggio, come per Siena, dal personale all'impersonale a cavallo fra 2 e 300. Una questione. Un momento di svolta, sì. Proprio. Una questione. Tu hai parlato di molte copie manoscritte, se ho ben capito, di cancelleria o presumibili comunali, insomma. Comunali. Ecco, ci sono rimaste copie manoscritte invece, diciamo, di uso privato, e se presentano differenze, prima questione. Perché io ho trovato che a volte è abbastanza interessante queste copie che invece sono prevalenti nel caso genovese, copie private, che riportano le addiziones, attraverso le quali poi, ad esempio, usando i consigli del Bosco, si può anche fare una stratificazione. Bello. E delle aggiunte, perché questo potrebbe essere anche non solo un modo per datare, come diciamo, i diversi strati, ma pone anche quel problema che tu dicevi, in fondo il governo poi dice de minimis non cura preto. Nel caso genovese io invece ho trovato che l'addizione, se vengono anche fatte magari di 3-4 righe, in risposta a casi politici giudiziari che erano avvenuti, una certa importanza. importanza, certamente. Sì, di una certa importanza, però è abbastanza curioso che vengano fatti brevi interventi che poi negli statuti successivi, nelle copie degli avvocati o dei notai, vengono riportate ma non come addizione, cioè recepite all'interno. E in queste diverse copie senesi c'è possibilità di fare lavori appunto su come viene raccolta il lavoro di aggiornamento, non fra una redazione statutaria e l'altra. Dunque, quanto al primo problema, sì, un esemplare privato credo di averlo individuato, del 400 in biblioteca infatti e non in archivio, e non a caso riguarda soltanto le distinzioni centrali dello statuto, perché è uno statuto quattrocentesco, per cui la parte giuspubblicistica del primo volume non interessava più in sostanza. Quindi questa è un esemplare molto interessante, perché appunto comprende soltanto la distinzione seconda e terza, le materie procedurali e penalistiche. Quindi quelle di interesse per i legulei, per intenderci, per i giuristi in sostanza, no? E lì ci sono appunto delle note anche lì di rinvio, insomma, sai, da un all'altro, delle chiarimenti, cioè chiaramente un uso privato probabilmente quello. Quanto sai agli strati, ecco, quei bei volumi di cui parlavo, quelli cancellereschi proprio, evidentemente libri statuti della catena erano quelli, proprio ben impaginati, proprio lictera grossa, da leggere. Quelli, ho l'impressione, sono di difficile elaborazione, perché hanno nei margini queste aggiunte degli emendatores di vari anni, venivano riusati in sostanza questi libri, cancellato quello che veniva eseguito e poi per un ovvio motivo di risparmio venivano riusati, insomma. Quindi è anche difficile datarli. Si può dire quando si è cominciato ad usarli, perché c'è alcune addizioni hanno la data, ma non si può dire con precisione, ecco, sono tutti poi di anni vicini. Cioè io ho avuto l'impressione che il momento di maggiore creatività legislativa in sostanza è la fine del 200, ecco, il momento di maggiore, poi col primo 300, con quello statuto del buon governo, si tirano un po' le fila essenzialmente. Nello statuto, ecco, sono anche più esplicito, si crede maggiormente a fine 200, per cui ancora gli emendatori tutti gli anni si riuniscono, fanno le notticine e tutto, no? E poi evidentemente nel 300 si vede che non si può mettere tutto nello statuto, che bisogna fare altre strade, percorrere altre strade. Io ho avuto un po' questa impressione, insomma. Zunächst muss ich mich entschuldigen, den freundlichen Hinweis von Professor Chitolini ehrlich gesagt verschlafen zu haben, denn das, was ich einzubringen habe, schließt sich an das an, was Frau Sasse und Herr Bertram schon angesprochen haben. Es geht also noch einmal um äußerliche, um technische Fragen der Bewältigung statutarischer Gesetzgebung. Man möge mir das verzeihen, denn das ist die Sichtweise, mit der wir uns den oberitalienischen Statuten nähern, indem wir sie eben als Zeugnisse dafür betrachten und untersuchen, wie mit dem Mittel der Schrift, mit der Technik des Schreibens versucht wird, normierend mit Normen das öffentliche und soziale Leben zu regeln. Ich möchte bei dem Codex von Siena aus dem Jahre 1262 nochmal ansetzen. Ich hoffe, richtig in Erinnerung zu haben, dass keines der Statuten in diesem Codex ein Datum trägt. Ist das richtig? Tutti gli statuti nel codice del 1262 sono senza data. No, alcuni capitoli sì, alcuni capitoli l'hanno. Alcuni I statuti del testo primo o li aggiunti? No, proprio nel testo sono alcuni capitoli con le date e sono molto antichi. Ci sono alcuni capitoli con la data di fine 1100. Ecco, c'è ad esempio quel famoso capitolo De tribus per massariziam, che cioè disciplina la possibilità per i contadini di abbandonare il manso, diciamo, è possibile per uno lasciando però gli altri ad assicurare la produzione nel campo. Ecco, quel famoso è datato 1189, mi pare, una cosa di questo genere. Cioè ci sono alcuni capitoli datati. Aber es sind nicht so viele Statuten datiert, dass man einen Überblick über die Gesetzgebung im frühen 13. Jahrhundert geben könnte. No, non ne sono conservati altri come statuti, come redazioni complessive. No, no, io scusa, ich, no, Bush è vero, ma parli italiano. No, non sono molto. Bravissimo Bush. No. Io non parlo sulle redazioni, sugli statuti nel codice del 1262. Per esempio, più vecchi codice di Como del 1292 ha 300 statuti con dati capitola, ecco, capitola, no? E con questo 300 dati è possibile di dare un vista sulla legislazione statutaria del tutto XIII secolo. Siete fortunati. È un caso eccezionale. Sì. E la mia domanda è, la redazione di Siena di 1262, sì, grazie, sì, sì. È molto sistemata. E un indizio per questa sistemazione è l'assenza degli dati. Sì, certo. Grazie. Certo, penso di sì. E questa sistemazione un tentativo, grazie. Il nostro un tentativo. Mettiamo all'opera il nostro Alex. Un tentativo di fare l'unico codice dell'ex municipalis, un tentativo, sì, sì, sì, sì, che a nessuna comune del XIII secolo geklappt hat, also das, è riuscito. Come l'unico comune? L'unico riuscito? Ah, l'unico riuscito a superare, sì, sì, l'ordinamento cronologico. Io non credo che questo codice del 1262 è l'ultimo codice per il XIII secolo. Dal mio punto di vista, basato sugli studi sul Como, Novara e Lodi, nel XIII secolo c'erano 4 o 5 redazioni degli statuti. La prima fase è verso 1230, la prima codificazione. E per me questo codice di Siena è un'espressione di questo tentativo di creare l'unico codice, ma non l'ultimo tentativo. Ah certo, non è l'ultimo, no, ma io come dicevo c'era già un costitutum prima, poi sappiamo intorno al 30 viene rifatto completamente. Questo è il primo pervenuto. È il primo pervenuto per noi, ecco. È il primo pervenuto ed è, da quanto visto, è già abbastanza elaborato, perché ci sono molte norme ancora in prima persona del podestà, però ce ne sono molte altre invece oggettive, item statuimus et reformamus, cioè ci sono proprio sono intrecciate naturalmente, no, queste norme. Ecco, è questo che volevo dire, perché sono state appese le norme dei reformatores, no, degli emendatores. È questo che volevo dire. Sì, sì. Und ich muss es noch mal auf Deutsch sagen, weil es da ein schönes deutsches Wort für gibt. Wir müssen für das 13. Jahrhundert mit dem Überlieferungszufall in sehr großem Maße rechnen. Also der Überlieferungszufall, wir sind oft erstaunt, welche Exemplare auf uns gekommen sind, aber es sind eben nicht alle Exemplare des Versuches, das städtische Recht zu kodifizieren. Daraufhin zielte meine Frage über die Daten. Vielen Dank. Un'osservazione, una domanda specifica. Tu hai menzionato alla testa del primo libro della prima distinzione del 62, titolo De Fide, Somma Trinitate, i capitoli contro gli eretici. Non ci sono, appunto, mi pare. Ah, tu hai detto... Cioè, non ci sono le costituzioni, però, che sono invece nelle redazioni successive. Sai quella, ad esempio, la Costituzione di Federico? Quella, proprio quella di Federico. Non c'è né Federico, né Innocenzo IV, né Clemente. Gregorio, Alessandro IV. Perché sì, no, non è a caso che sto menzionando questo punto, che anche di qui saremo riportati, è un argomento che dobbiamo prendere in considerazione per quasi tutti gli statuti, e io non sono mai riuscito di capire come sono andate le cose. Dobbiamo sapere che il papato dal 1220 emana tutta una serie di costituzioni anti-ereticali che nemmeno da questa parte finora nessuno è riuscito di chiarire proprio la sequenza, e tutti i testi non sono nemmeno inventariati e editi. Però quello che interessa a noi è che a partire al più tardi da Innocenzo IV le più importanti costituzioni sono inviate ai podestà delle città lombarde e del centro Italia centro-settentrionale, con il specifico incarico di inserirli nei codici dei statuti. E sarebbe io sarei molto interessato di avere dal lato dei comuni, delle conferme che hanno veramente fatto così. Per dire, io sono un po'... Non ho mai capito come volevano fare nelle città, se avessero voluto di considerare tutto quello che emanava da Roma, che era proprio una frenesia, di ogni anno un'altra costituzione. E addirittura mi recentemente è capitato il caso di una molto importante bolla di Innocenzo IV, contenente tutto 15 capitoli contro gli eretici, dove all'inizio il Papa comanda che siano inseriti nei statuti cittadini, e alla fine, in una specie di epilogo, dice tutto in un modo tutto incoerente, che in ognuna città devono essere trascritti 4 codici, questi capitoli contro gli eretici, e quelli che seguiranno, che lo dice allo stesso momento, perché prevede che non sarà l'ultima, insomma 4 codici separati, uno per il podestà, uno per il vescovo e 2 da mantenersi dai domenicani e dai francescani. Sarebbe una domanda a tutti voi che conoscete i vari statuti, se vi è mai capitato sia questo fenomeno di inserzione nei corpi statutari o un esempio per questi codici trascritti nelle città e rimasti diciamo nell'archivio comunale o dai mendicanti. In Bologna mi è mai capitato e nei statuti non ho mai trovato almeno tutta la serie di questi capitoli anti-ereticali. Grazie Martin. No, ti dicevo, ecco come in quello del 62 allora non ci sono, forse anche perché è un periodo ghibellino e sono stati scomunicati anche in quegli anni, sai, c'era un forte attrito politico, no? Poi subito dopo le ha messe però, negli statuti guelfi ci sono, negli statuti guelfi degli anni 70-80 ci sono tutte le costituzioni. Volevo da un lato chiederti un chiarimento, cioè una cosa che forse è sfuggita a me semplicemente, cioè volevo sapere se negli statuti senesi, diciamo quelli del 1541, perché prima credo senz'altro di no, è presente il dominio, nel senso che come fanno quelli di Firenze del 1405 stabiliscono del 1415 stabiliscono l'ampiezza delle giurisdizioni e eventualmente anche i compiti dei giurisdizionati, così come avviene in quelli di Firenze. Questo è tutto l'avvenimento, in questo caso mi scuso. La seconda cosa riguarda sempre i rapporti col dominio e però fuoriesce dalla tua relazione, quindi io te la chiedo semplicemente perché tu me la dica se la sai, se no non c'entra con la relazione. Cioè tu hai parlato di un comunello che avendo smarrito i suoi statuti o non riuscendo più a leggerlo, senza nessun problema passa agli statuti di Siena, che senz'altro gli saranno andati molto larghi, questo è evidente, cioè si serve semplicemente delle rubriche che in qualche modo, sì, certo. Ecco, che in qualche modo gli possono servire. Ma tra mi viene in mente questo, che cioè probabilmente si tratta veramente anche di un'area statutaria con forti affinità, cioè ecco, c'è molto veramente. Vicino alla città. E in cui probabilmente la proprietà cittadina era molto estesa. La proprietà cittadina era forte, in cui non c'erano più problemi comuni, certo. Cui anche probabilmente col fatto che c'è una così forte presenza di diritto romano dietro al diritto senese, quindi c'è evidentemente la presenza dei dottori, eccetera, probabilmente c'era poi un'unificazione in sostanza in parte del diritto. Però il comune è Castelnuovo Berardenga, che quindi è una zona estremamente vicino alla città, in cui in età moderna la proprietà ormai c'era una grande proprietà cittadina, insomma, quindi credo che insomma in quei casi appunto quando non c'è più un comune con piccoli proprietari che ancora stanno intorno al loro statuto, ai loro organi, insomma. Per il primo problema, invece, nello statuto medievale ci sono questi problemi del territorio. No, è impressionante proprio per questo, perché ci sono le giurisdizioni militari, c'è tutta una disciplina dettagliata del reclutamento nel territorio, cioè è proprio uno statuto di grande respiro, insomma, e questo spiega forse anche la lunga elaborazione, ecco, hanno fatto una cosa proprio ampiamente meditata, mi sembra. E ti dico, c'è questa questione del questo avere unificato anche le norme del popolo, mi sembra un dato molto significativo, perché quindi dal punto di vista politico probabilmente aveva più, non aveva proprio un'organizzazione autonoma se non entro certi limiti molto limitati, probabilmente. Non so se ho risposto a tutto. Elena, sì. Bei den Statuten von Siena, die modifiziert werden in den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts, da sagen sie, es gibt 36, dann habe ich es nicht richtig verstanden, Regulae Communes oder so, die vorgehen. 36 Regeln, die vorgehen. Mich würde interessieren, was sind es für Regeln? Kann man die auch als Statut bezeichnen? Und was ist denn der Grund, der Geltungsgrund, warum die vorgehenden Statuten, diese 36 Regeln? Proprio gli statuti cittadini, no? Ci sono quegli statuti del campaio, quegli statuti del danno dato, ci sono degli statuti del danno dato nel 1360. Per questo non capivo. 1361, statuti del. Se il problema non c'è, non c'è. 1200. 1262. Dei 36 del governo, insomma, che sì, non di regole, no, quegli statuti del 30 del 1270, intorno al 1270, si chiudono con l'ultima norma, dice che gli statuti devono essere rispettati rigorosamente, però non devono impedire l'opera del governo. Il governo deve poter operare expedite et. È quello, immagino, che voglio dire. Et libere. Cioè c'è una norma garantistica generica e poi subito negata in sostanza, mi sembra, da questa. Sì, sì. No, è una nota che avevo preso da quello statuto semplicemente perché per indicare una mentalità, insomma, no? Com'è contrario alle nostre idee del garantismo, in sostanza. Qui si dice lo statuto deve essere rispettato ad unguem e poi si dice però il governo deve poter procedere libere et expedite. Il che, sì, appunto, è un po'. Ti pare? E quindi, vero? E quindi c'è questa elasticità. Anch'io avrei varie cose da chiederti, una relativa a questo aspetto delle consuetudini che tu hai riferito, che mi è sembrato molto interessante. Questo però mi chiedevo, cosa intendiamo esattamente per consuetudini? Cioè, supponiamo c'è una magistratura che è regolamentata da una redazione statutaria, quella redazione statutaria si perde, quella magistratura continua a funzionare ma non c'è più un testo. Ecco, questo può essere il caso in cui non esiste una norma viva, però è stata, come dire, statuita, insomma. Ecco, quindi io ti chiedo, in queste consuetudini della metà del 400, fino a che punto possiamo parlare di un diritto consuetudinario nel senso di una pratica non solo amministrativa che è rimasta sempre fuori dalla normazione, o fino a che punto non possiamo pensare a una raccolta come riordinamento di qualche cosa che è stato magari altre volte definito ma di cui non sono rimasti i testi? Questa è una domanda. Proseguo con le altre. Ecco, un'altra cosa è questa, e i rapporti col territorio, ma qui è forse un discorso un po' lungo e forse non vorrei, niente, questo magari privatamente, scusate, perché è troppo... Ti dobbiamo tutti un ringraziamento. Ecco, allora cercherò di essere breve anche per l'ultima cosa. No, adesso non esageriamo. Cioè, io ho molto apprezzato, ti dicevo anche prima, questo discorso che hai fatto, perché mi sembra ha permesso di capire tutto quel lavorio che c'è dietro allo statuto, collateralmente allo statuto, questi anche diversi livelli di solennità o di autorità di queste norme, provisioni, statuizioni, eccetera. Con l'impressione quindi che, come dire, di un disgregarsi di quello che è l'idea di un diritto o di una così preciso definito. Allora io mi chiedo, esiste pur tuttavia l'idea che c'è una, diciamo, senesità di un diritto che da un certo punto di vista si vuol difendere, come per esempio nei rapporti con Carlo V. È una situazione che in Lombardia c'è molto prima, cioè credo che forse la situazione in Lombardia è diversa, cioè forse non è così ricca questo lavorio a cui facevo riferimento, però credo che ci sia stato, anzi per certi casi anche dagli interventi che sono emersi si sa che c'è tutta un'attività che poi non è registrata da codice o da statuti precisi. Ecco, c'è pur tuttavia, direi con forte pregnanza, il senso che una città ha i suoi statuta e ordinamenta e provisioni, intese come qualcosa di organico e di specifico che va difeso, no? O che va. Quindi qui c'è invece il senso di qualcosa di molto preciso e di organico sotto il termine magari statuto e ordinamento e statuto e provvisione. La mia domanda è questa, è soltanto un significato politico che si dà a questi termini? Non so se è qualcosa di simile a quella symbolische Gesetzgebung che diceva un po' ieri, oppure c'è anche dal punto di vista giuridico qualche cosa che connota quel particolare diritto, sia dal punto di vista più generalmente urbano, è un diritto di una città, non il diritto di una signoria o di uno Stato, sia dal punto di vista più specifico di un diritto senese piuttosto che fiorentino, piuttosto che perugino. Dunque, sul problema della consuetudine non mi ci sono soffermato molto, ma cioè, ho dovuto un po' glissare, ma in effetti la delibera è impressionante perché parla proprio di consuetudini contra legem. Cioè lì c'erano, dice ci sono delle norme, ma queste norme non vengono rispettate proprio nella prassi di tutti i giorni, e indica appunto, e quindi è un richiamo energico al rispetto della legalità, insomma. E questo è probabilmente, non so, una un'ipotesi, insomma, l'ipotesi un po' che faccio io è una spiegazione, è che siamo in periodo di governo largo, in cui ci sono appunto larghe fasce cittadine che hanno la possibilità di influire sul governo. Ecco, e questi governi sono debolissimi perché sono governi bimestrali, quindi non appena uno ha un amico che riesce a arrivare ad essere risieduto, no, veramente ci doveva essere un turbinio proprio di raccomandazioni intorno al governo, e si aspettava il momento buono, insomma, per farsi valere. Ecco, anche questa continua rotazione negli uffici doveva creare questa continua situazione. Ce ne sono anche delle testimonianze dirette. A un certo punto si dice, intorno al Concistoro c'è una gran ressa per gli appelli, cioè come un riconoscimento che c'è gente che chiede un intervento per la giustizia, insomma, sulla giustizia, attraverso il potere politico proprio. E quindi anche per le consuetudini probabilmente c'è una cosa di questo genere. C'è una lettera molto bella di un lucchese che scrive a Paolo Guinigi dicendogli di intervenire a Siena, cioè chiedendogli quello che lui deplora. Lui deplora che a Siena non riesce a ottenere giustizia perché tutti si aiutano uno con l'altro, e quindi lui è lì da anni che cerca di avere giustizia, e quindi chiede un intervento politico a Paolo Guinigi, insomma. E quindi credo che in effetti questa fosse una situazione francamente grave. Però proprio anche da un punto di vista tecnico credo che fosse difficile l'applicazione della legislazione, proprio per un'applicazione puntuale della legislazione, proprio per questa continua variabilità e non professionalità del governo quasi a tutti i livelli. Ecco, credo che questo sia un punto. Quello invece della senesità, sì, indubbiamente c'è questa idea di avere un corpus. Altro discorso è cercare di definire quali sono questi principi che si ritengono propri. Ecco, io ne ho trovato uno molto interessante, ecco, ti dirò questo, il voto segreto. Cioè, il Savonarola interviene a Firenze, in genere Firenze non ha mai guardato, credo, come modello a Siena, anzi. Però, ecco, appunto, nel periodo del Savonarola c'è un intervento in cui parla in una delle prediche in cui a favore del Consiglio Grande, del Consiglio Maggiore, quando dice è importantissimo, tenetevi stretto il Consiglio Maggiore perché è la cosa più importante che voi avete, eccetera, o fiorentini, e guardate, seguite lo stile senese nelle votazioni. A Firenze invece avevano questa prassi che da metà 400 era invalsa in modo abbastanza autoritario del voto palese, che naturalmente aveva consentito ai medici di fare degli interventi, è una cosa molto, molto nota, credo. Ecco, probabilmente c'è un nucleo di consuetudini che si ritengono proprie, ed è per questo che a metà 400 possono dire c'è la gente che ci imita, imita i nostri statuti, anche se loro di fatto non hanno una redazione leggibile in sostanza. Loro quindi devono aver avuto un complesso di principi che ritenevano caratteristici di governo in sostanza. Poi probabilmente altre questioni sono altri principi, questo però bisogna fare un lavoro comparativo specifico, andare a vedere anche sulle successioni, sulle donazioni, può darsi che ci fossero delle regole un po' particolari, insomma. Non so se ho risposto. No, sì. Schiera. Ma io volevo fare un intervento un po' da outsider e di provocazione, allo scopo di, cioè non quindi tanto riferito al caso senese, perché credo che ogni tanto in questi seminari ci sia bisogno anche di fare dei discorsi, anzi ogni relazione dovrebbe comportare anche dei tentativi di discorso generale. Insomma. Tutto qui è provocatorio e parte da una osservazione che ha fatto ieri mattina, sembra una settimana che siamo insieme, ma era solo ieri mattina, il professor Chitolini, quando ha giustamente richiamato l'attenzione sulla necessità di distinguere il diritto dalla politica e dal potere. Benissimo. Oggi tu, a me ha colpito molto una, nella tua bellissima relazione, il fatto che nel descrivere i primi statuti senesi Hai detto in fondo si trattava più di programmi politici che d'altro. E poi alla fine, quando hai parlato dell'ultimo statuto, degli ultimi statuti cinquecenteschi, di nuovo hai detto in fondo si trattava più di un programma politico di resistenza. Sembrerebbe quindi che in questa bellissima evoluzione che ci hai dato della statuteria senese ci siano due poli, ci siano come due parentesi, una iniziale e una finale, in cui questa cosa molto importante, peraltro se fosse giuridica, che sono gli statuti, non lo è perché invece lì è politica. Prima e dopo è politica, in mezzo invece è diritto. Io invito a considerare questo fatto, chiedo se dietro una valutazione anche inconscia, che viene fuori solo dal lessico che tu hai usato, non ci sia un atteggiamento, sto per dire ideologico, so che però, ma lo dico nel senso più nobile del termine, cioè non perché con i tedeschi sono difficili usare questo, soprattutto con i colleghi tedeschi è sempre molto difficile usare questo termine, ideologis, crea subito delle cose. Cioè, e non ci sia ideologico nel senso che io sono convinto che la distinzione fra diritto e politica è evidentemente una distinzione strutturale, e tuttavia sono anche convinto che molto spesso noi ricorriamo a questa distinzione senza renderci conto, ma partendo dal grande patrimonio ottocentesco, no? In questo secolo in cui queste scienze hanno trovato formalizzazione, in cui il diritto è la scienza giuridica, la politica è la scienza giuridica, e quindi l'ambito giuridico e l'ambito politico di epoche risalenti come questa di cui stiamo parlando, rischiamo di interpretarle con gli occhiali scientifici proprio d'Ottocento. Queste sono cose che ha già ricordato Willowite, hanno già ricordati altri da ieri a oggi, sono banalissimi problemi metodologici, insomma proprio di bassissima lega, però io inviterei a tenere bisogno. Ecco, cioè capisco anch'io e sono convinto, e poi anche queste belle illustrazioni che ci hai dato dimostrano, e spero che tu presto ci dia la conferma scientifica definitiva, che c'è una Blütezeit meravigliosa a Siena che forse anticipa di molto anche tante altre nostre opinioni sulla storia costituzionale, eccetera, eccetera. E capisco che questa epoca va registrata, eccetera. Però, ecco, ho qualche dubbio sul fatto che si possa, come mettere tra parentesi e offrirla su un vassoio d'argento, tra l'altro dicendo che quella è la vera epoca statutaria in cui appunto il diritto si esprime in una sua pienezza, mentre le altre sono epoche in cui la politica bassamente. Ho l'impressione, dal mio punto di vista, che il diritto è sempre stato un servitore della politica. Vorrei che questo punto di vista venisse, insomma, valutato. Questo volevo dire solo, no? Senza nessuna polemica. No, per carità, io te lo riconosco, hai ragione. No, calma, no, riconosco. Ha ragione che l'equivoco può essersi creato. L'equivoco può essersi creato, però io parlavo di programma in due sensi diversi. Cioè, che sono radicalmente diversi. Una cosa è avere uno statuto nel 1262 che è un programma che tu affidi ad un podestà che ti scegli tu, ed è un programma ravvicinato, viene il podestà e voglio che rispetti il programma che si trova in quel testo, d'accordo? Poi intendiamoci, tutto lo statuto non può essere un programma, proprio perché c'è una parte appunto temporanea da attuare e poi c'è una parte perpetua, come abbiamo detto, no? Adesso stiamo parlando della parte più politica, pubblicistica dell'opera. Altra cosa invece è avere un imperatore che ti incombe, imperatore o altri che ti incombe, e tu gli presenti un pacchetto di richieste, non è per domani e non è un gestore che tu potrai controllare. Lì è veramente un materiale sul quale trovare l'accordo politico, o altrimenti si va alla guerra, come si andò appunto alla guerra, no? Perché poi prevaricò e non rispettò, dico, quei tipi. Ecco, cioè sono il lessico ci è fuorviante, insomma, no, sono due programmi radicalmente diversi proprio. È questo che cercavo di sottolineare, proprio la differente funzione dello statuto, la differente però funzione dello statuto, cioè hanno lo stesso nome, però sono cose ormai molto diverse, insomma. Su questo punto molto importante c'è qualcuno che vuole intervenire? Che uno sia il fatto di fare lo statuto, va bene? Cioè si fa lo statuto, cioè si ricodifica, si riordina, si prepara il pacchetto nel 1541 perché la situazione politica è quella, va bene? E in questo sta in fondo il programma e in questo sta l'aspetto, diciamo, immediatamente politico. Nel senso proprio che lo è immediatamente, che è una decisione che si prende a livello politico, certo. Che non c'è nessuna mediazione di tipo giuridico, niente. Ecco, dopodiché il contenuto, lo statuto in sé, come, diciamo, come oggetto, come risultato, è un programma o è qualcosa di diverso? Cioè è una cosa che è stata fatta per ragioni politiche, che ha certamente moltissime relazioni con il politico, ma che è un corpo che non nasce in quel momento, che ha dietro di sé una sistemazione che non è solo, diciamo, non è solo immediatamente politica, perché si rivolge anche alla società civile, eccetera. Cioè, ecco, io ho l'impressione che anche il rapporto tra diritto e politica, insomma, forse delle mediazioni le comporta. Ovviamente, ecco. È anche un atto di politica interna, sicuramente, su questo non si discute. Io volevo però mettere in rilievo come dopo un'inerzia di due secoli, questi hanno avuto proprio la causa impulsiva, per così dire, è stata quella. Poi è chiaro, ci siamo, ricodifichiamo, risistemiamo le nostre tradizioni. È chiaro che c'era una parte che a Carlo V certamente non interessava minimamente, la parte privatistica, c'erano delle parti dello statuto, la procedura, certe cose non interessavano, ma il capitano di giustizia gli interessava, gli organi costituzionali gli interessavano, non a caso dopo due o tre anni l'ha fatti modificare, ha imposto proprio una revisione degli statuti. Quindi ecco, da questo punto di vista era un pacchetto da sottoporre a sua maestà, insomma, no? E da non essere accettato in parte, cioè gli statuti vigenti poi non sono quelli, sono stati modificati subito praticamente, in pochi anni erano già diversi. Volevo dire questo, cioè adesso naturalmente hanno queste, il problema è che hanno più spaccettature, appunto, no? Gli statuti hanno queste normative di carattere diverso, ecco, questo è il problema senz'altro. Indubbiamente c'erano anche delle norme di carattere politico interno, di diritto pubblico interno, anche lì, che a Carlo V forse interessavano relativamente, no? Mi chiedo, ecco, ad esempio la ripartizione del territorio, le podesterie, queste cose non credo che fossero così importanti per Carlo V, ecco. Solo un completamento agli argomenti discussi proprio adesso. Voi avete spostato l'attenzione alla fine del tuo discorso e io francamente il concetto di programma lo trovo completamente fuorviante anche per la situazione, per l'inizio, o anche di più forse, anche per il 200. Perché siamo, proprio questo pomeriggio siamo stati tutti, penso c'è un consenso sulla grande varietà sia del materiale e delle composizioni del 200 che non, proprio non c'entra con un concetto di programma. Forse abbiamo linguisticamente, forse abbiamo, non so, ecco, quando c'è programma nel senso che ci sono delle norme in cui il podestà promette di fare certe cose, ma anche di tipo amministrativo, cioè lo statuto ha delle norme di tipo, quelli che oggi chiamiamo atti amministrativi, diremmo, cioè riatterò la strada che va da A, rifarò il ponte sul... Ecco, è anche un programma amministrativo in questo senso. O quando dovremo scegliere il giudice, io nominerò una commissione di 6 boni omines, i quali si riuniranno, io li farò. C'è programma in questo senso, ecco. Però ti dice con quali organi si governerà, in che modo, insomma, rispettando. Insomma, credo a un certo punto è una questione linguistica, se tu ritieni che non sia degno di questo termine, diremo in altro modo, troviamo un'altra soluzione. Comunque mi sembra che sia un programma espresso in norme giuridiche, insomma. Ecco, voglio dire, si sa dove, se tu confronti due statuti, vedi la differenza, cosa vuol fare un comune e cosa vuol fare l'altro, vedi la diversa consistenza. Scusa, ecco, usiamo progetto allora, sì, ecco, forse abbiamo trovato anche un altro progetto. Bisogna vedere se a medio termine forse ci risolve il problema. Ha due altre questioni. Ich habe zwei Fragen, von denen sich die eine aufdringt aufgrund der deutschen Forschungslage und die andere mehr mit meiner Unwissenheit zusammenhängt in der italienischen Geschichte. Die erste Frage, Sie haben gesprochen von einer Erklärung der Konsuls vom Jahre 1176, dass römisches Recht das Recht der Stadt Jena sein soll. Meine Frage ist, welche Konsequenzen sind da erkennbar? Sie haben zwar gesagt, zunächst gibt es keine komplette Aufzeichnung des Jeneser Rechts, aber wir haben uns ja eigentlich daran gewöhnt, dass die Rezeption des römischen Rechts nicht ein Vorgang ist, der in complexu mit einem Mal den ganzen Rechtsstoff erfasst hätte, das ist sicher auch in Italien undenkbar gewesen, sondern dass bestimmte Rechtsinstitute, Begriffe übernommen werden, und zwar zuerst in die Urkundenpraxis. Und meine Frage ist, seit wann kann man das in Siena feststellen? Ich will versuchen, das noch ganz kurz tentavo in italiano. Ha parlato di una dichiarazione dei consoli di 1176, che in futuro deve essere il diritto romano e il diritto della città. No, forse, scusa, non in futuro, è un atto di donazione, in cui i consoli dicono la vogliono disciplinata dal diritto romano, sì. Ecco, è la spiegazione quella, quello che sì. Dicono questo atto lo vogliamo disciplinato dal diritto romano, poiché noi viviamo in tota civiltà con legge romana. Das heißt, capisco. Das heißt, dieser Vorgang findet schon, diese Erklärung findet im Rahmen eines einzelnen Rechtsgeschäfts statt. Also das ist schon ein erstes Zeugnis praktischer Rezeption. Und solche gibt es später auch vermutlich, oder vergleichbare. Ma credo che sia nel senso delle leggi personali, penso, no? Voglio dire, cioè noi non abbiamo più leggi germaniche, noi non professiamo come invece nella campagna capisco, forse io penso che questo fosse polemico o comunque un po' in quel senso. Aber am Anfang des 13. Jahrhunderts gibt es per esempio in cancelleria dell'imperatore molti termini e parole di diritto romano, gibt es Vergleichbares in Paragone, in Siena, è possibile trovare queste molto usate. Alcune delle norme più antiche, non quella del Decribus per Massarizia, però ci sono delle norme appunto sulle donazioni, sulla donna, in cui prendono dal diritto romano. Questo sì, grazie. Sul tutor, il curator, proprio concetti chiaramente. Grazie. Und nun un'altra questione. Das betrifft das Kaisertum. Ha parlato della sovranità e della città. Sovranità è una parola grande. Ich will es auf Deutsch einmal sagen. Es ist bekannt, dass die Autorität des Kaisertums zugrunde geht. Wir in Deutschland sind gewohnt, das mit dem Untergang der Staufer, der Dynastie der Staufer in Verbindung zu bringen. Aber ich meine verstanden zu haben, dass Sie gesagt haben, im 14. Jahrhundert wird dann endgültig das Kaisertum nicht mehr erwähnt. Und da ist mir nun folgender Gedanke gekommen, also allgemein formuliert. Soltanto una questione di potere oppure anche del diritto. Denn im 14. Jahrhundert gibt es einen großen Konflikt. È stato il grande conflitto tra Ludovico IV e il Papa. Der Papst hat den Kaiser nicht mehr anerkannt. Dies war ja nun möglicherweise ein rechtlicher Gesichtspunkt, der die italienischen Städte schlicht und einfach von allen Bindungen gegenüber dem Kaiser befreit hat. Auch in rechtlichem Sinne. Wenn der Kaiser illegal sein Amt ausübt, dann sind natürlich die Untertanen frei. In Deutschland waren sie es nicht, aber in Italien selbstverständlich, weil der Papst näher ist als der Kaiser. Ist das eine mögliche Spekulation oder eine possible? Questi guelfi erano in guerra con l'impero, insomma, quindi voglio dire, non vedo perché avrebbero dovuto riconoscere, cioè a un certo punto una cosa era il riconoscimento ufficiale dell'impero, ma a me sembra, cioè, che concretamente questi politici potrebbero, senza dichiarazioni plateali, non c'è bisogno di fare un proclama e dire noi non riconosciamo la sovranità dell'impero. Noi semplicemente ci sostituiamo de facto, senza proclamazioni. Noi invece di affiggere, di dipingere un immaginario imperatore, noi dipingiamo un immaginario la nostra Repubblica. Ecco, cioè voglio dire, cioè, di fatto l'impero è assente e nei decenni precedenti invece aveva fatto guerra contro. C'eravamo dovuti di... Scusa Gianmaria, c'è un problema anche. Siena non aveva il vicariato, Se l'è fatto dare più tardi. Cioè Siena ha avuto di nuovo grane con l'impero, con Carlo IV. Ecco che Carlo IV ha provocato il crollo del governo e quindi poi hanno dovuto, anche per essere un po' tutelati, comprarsi il vicariato imperiale negli anni successivi. Però ecco, nell'85 hanno rifatto quella bicchierna, perché probabilmente hanno di nuovo... è un'ipotesi ovviamente, ma hanno pensato che di nuovo l'impero era stato soltanto un disastro e quindi sono ritornati sulla raffigurazione della maiestas della Repubblica. Nel 400 il discorso cambia, ecco, nel 400 indubbiamente cambia, c'è un riconoscimento ufficiale che diventa città imperiale, con Sigismondo è ospite per vari mesi a Siena, insomma nel 400 il discorso cambia. Il discredito che reciprocamente si sono buttati addosso l'impero e il papato abbiano potuto far pensare a livello locale, ma queste due somme autorità ci danno soltanto delle grane ed è bene, insomma, sarebbe bene almeno che ci fossimo o che ognuno facesse da sé, fosse autonomo, indipendente. Può darsi che sia venuta fuori questa idea, insomma. Su questo, tuttavia, mi interessa molto l'aspetto teorico e non fattuale di della domanda che ha fatto il professor Winnowitz, no? E cioè, dal punto di vista teorico, nella comunis opinio dell'epoca, del XIV secolo, il mancato riconoscimento per la peculiare connessione che esiste in quell'epoca per la comunis opinio fra Chiesa e fatti di fede, diritto, e fatti di città, politica e fatti di impero. Il fatto che il Papa non riconosca l'imperatore può essere considerata per la comunis opinio una buona ragione per spingere, premere sull'acceleratore di un ulteriore distacco dalla sovranità imperiale? Dal punto di vista teorico no, non per niente. Bartolo, scusa, ecco, abbiamo il Maximus Bartolista. Sì, no. Dicevo che la dottrina ha riconosciuto in qualche modo, no, lo stato di inobbedienza delle parti d'Italia all'imperatore nel momento in cui ancora la coniunctio duorum capitum, insomma, non era ancora avvenuta. L'avvento dell'imperatore fedele alla Chiesa di Carlo IV, insomma, le cose che sappiamo. Ma quando Carlo IV entrò in Italia le cose cambiarono, insomma, cambiò anche l'atteggiamento dei dotti. Forse bisognerebbe chiedersi invece se un certo attaccamento alla dottrina permissionistica, no? Cioè all'idea che la potestà di condere statutum riposi sulla permissione dell'imperatore, che è diffusa soprattutto in ambiente ghibellino, la prevalenza di questa posizione non sia dovuta appunto a ragioni di tipo politico e ideologico e per converso nelle terre che sono le terre della Chiesa e nei giuristi che sono intimamente legati a quell'esperienza, l'emergere, il prevalere a tratti di quella altra dottrina che si è soliti chiamare della jurisdizio, eccetera, non abbia queste radici. Non so se si tratti di una disaffezione nei confronti dell'impero, non lo credo. Non so se si tratti del prevalere della oggettiva situazione politica, ma certo è che esiste anche sul piano della dottrina un ghibellinismo e un guelfismo dei nostri giuristi e un atteggiarsi in modo diverso anche di fronte allo statuto a seconda dell'appartenenza a queste due, così per comodità, questi due schieramenti. Die Doktrina selbst war also ja gespaltet, ja. Es gab zwei also Fraktionen, die Guelfa und die Ghibellina, gerade über dieses Problem. Und eine Interpretation, die eine Interpretation siegte oder die eine oder die andere Interpretation siegen konnte, also mit den verschiedenen politischen Verhältnissen, verstehen Sie was? Also, es ist so, es ist nicht, und schon vorher, also vor, wann, als noch die Conjunctio Duorum Gladium war noch im Laufe, doch gab es schon eine starke Doktrina gegen den Kaiser. Also, man kann nicht die Entwicklung so darstellen, wie Sie gemeint haben. Non è che venga meno l'idea dell'impero come punto di riferimento e fondatore di legittimità, per esempio, no? Adesso, a parte questa contingenza, non è semmai un tramonto temporaneo o degli orientamenti? È una domanda che faccio, perché appunto nel 400 si risente ancora fortissimamente, per molte cose, la necessità di riferirsi all'impero, anche se la sua autorità è puramente teorica, nel senso che poi no, gli Sforza diventano matti per avere questa investitura imperiale che non riescono mai a avere, oppure delle città che si procurano il vicariato imperiale notoriamente, insomma. Ma è una domanda, ecco, questo ce l'avevo in mente, ma adesso mi traballava un po' a sentire. Guarda, Giorgio, io vorrei entrare meglio, appunto, spero che si possa fare, insomma, vedere un po' meglio nella letteratura di questo primo 300, insomma, perché non sarei così sicuro che l'idea dell'impero ancora fosse così salda in zone guelfe. Dopo decenni di guerre, Enrico VII, Ludovico, sono stati solo motivi di guerra, queste. Non solo, ma questi hanno fatto rialzare la cresta ai signori del contado, teniamo presente questo. Cioè sono stati fonti, per i comuni, sono stati fonti di legittimità in senso inverso, perché gli imperatori hanno accreditato quelli che lottavano contro i comuni guelfi. Quindi insomma, che l'impero fosse arrivato a un tale fondo di discredito, bisognerebbe un po' vedere, ecco, appunto, vederlo un po' più chiaro. Certo che è difficile trovare delle dichiarazioni, non potremo mai trovare una dichiarazione come quella che vorrebbe il teorico Schiera, cioè in cui il doctor subtilis, super subtilis, si scrive e dice... Dottor non porta pena, si mette lì e dice: a differenza di quelli che credono che l'impero, o a differenza, non solo la civitas è sibi princeps, ma è tanto sibi princeps che rinnega l'impero. Ecco, una dichiarazione così aperta, non so, insomma, che possiamo fare a meno dell'impero, non so, perché il mondo della dottrina giuridica poi è un mondo in parte diverso da quello dei politici, insomma, ecco, dobbiamo tenere presente anche questo, perché la dottrina giuridica è dottrina accademica, anche se straordinariamente legata alla pratica, come Bartolo grandissimo riflette straordinariamente i problemi della pratica, però voglio dire, vive i suoi codici, insomma, vive in un codice accademico, insomma, e quindi è una cultura che può essere ben lontana da quella di questi mercantacci che avevano il bastone in mano, insomma. Quindi potremmo dire: ma che imperatore? Questo è venuto solo a rompere le scatole. Insomma, ho capito, il Papa è un incapace ed è in Francia. E noi perché non possiamo essere? Cioè, ecco, voglio dire, bisogna entrare, credo, in un'ottica che è un po' diversa da quella libresca, no? Libresca accademica. Ecco, questo è il problema. Sono io il libresco. Non si può non rispondere a questa insinuazione di Schiera sul fatto che bisogna arrivare all'Ottocento per crearsi delle categorie che distinguono diritto e politica. Insomma, non so se è questo che volevi dire, ma io questo. Allora io lo respingerei. Ma il discorso sarebbe lungo. Cioè, un conto è, diciamo, applicare pedissequamente certe articolazioni dell'argomentare e ritrovare, no, certe. Un altro conto è, secondo me, legittimo, con problemi contemporanei, rivolgersi al passato. Ecco, il problema, sapendolo, ma lo facciamo sempre inevitabilmente, il problema è di traduzione, insomma. Ecco, e il problema è anche nel fatto che queste entità, diritto e politica, sono cose che non sono sempre uguali a se stesse. Questo, certo, no, lo so, ma lo so, ma non, siccome non vuole parlare. Ci stiamo allontanando dagli statuti, ma in quel caso al giurista era ben presente una realtà. Ecco, mi pare che ci sia, insieme al riconoscimento di una realtà di fatto, cioè nos sumus in terris ecclesiae, e dunque il nostro parere deve essere favorabilis ecclesiae, la dichiarazione di una propensione, cioè noi avremmo adottato quella opinione quam tenuit dantes, se non che fuit quasi damnatus de heresi. Ecco. Il giurista poteva avere i suoi sogni, i suoi progetti, c'era la realtà da tenere presente. Ecco, questa. Zwei ganz kurze Fragen noch. Sie haben in Ihrem Referat berichtet von der Tatsache, auf die Professor Willowald gerade angesprochen hat, das Verschwinden des kaiserlichen Regentschaftsjahres bei der Datierung. Si tratta ancora di questo fatto del disapparire della datazione a secondo anni imperiali. Können wir beobachten, dass an die Stelle der Datierung nach kaiserlichen Amtsjahren Pontifikatsjahre treten? Cioè che si sostituisce questa datazione per una datazione a secondo anni del pontificato, per esempio? O ecco, magari la seconda questione che segue, si può notare anche questo discredito dell'autorità imperiale nel fatto dell'autorità del notaio stesso, cioè da dove trae la sua pubblica fides il notaio senese nel 300? Si riferisce ancora alla pubblica fides conferitagli dalla parte dell'impero o a quale? Questo devo dire, guarda, è una cosa che ho inserito soltanto perché ho trovato nello Zdekauer, il quale però non in quel passo non motiva. Mi ripromettevo di vedere un po' tutta l'opera di Zdekauer, perché evidentemente aveva trovato dei documenti di quel tipo. O chiedere più facilmente a qualcuno che si occupa di notarile del 300. Ecco, io spero che ci sia un po' di... Non dice, Zdekauer parla di, cioè, di atti... Io ho un'esperienza, no? In Lombardia direi nel XIII secolo si data già appunto a Capizione, così, cioè l'imperatore... No, senz'altro, cioè però spesso si ricordano anche negli atti pubblici, nel 400 si ricorda regnante, imperatore... Ma non come elemento di validità o di... Ecco, Zdekauer dice incidentalmente, questa appunto è una cosa che mi ripromettevo, dice incidentalmente, ecco, nel 300 toscano si discute addirittura della validità di questi atti notarili in cui non si cita l'imperatore. E siccome in genere è uno affidabile, però il contesto appunto era diverso, probabilmente lì non ha motivato, ecco, volevo chiedere a qualcuno, se speravo che ci fosse qualcuno tra di noi, ecco, che sapesse qualcosa, mi chiedo a qualcuno chi è. Che si occupa di queste carte, insomma. L'ho trovato molto interessante però come problema questo. Ah, ecco, quello dei notai non lo so, insomma, questi imperiali, forse Martin può rispondere, i nostri notai... un po' più a lungo. Sì. Sì. Ne riparliamo, signori. Domani mattina abbiamo due rapporti e così cominciamo al nuovo ora in punto. Punkt 9 Uhr morgen früh, weil wir zwei Vorträge haben. Wird der verantwortliche Verwaltungsbeamte des Istituto Trentino di Cultura die Auszahlung der Reisespesen und Honorare für die Seminarteilnehmer im großen Saal des zweiten Stockes vornehmen? Großer Saal des zweiten Stockes, morgen 11.30 Uhr. Alle Teilnehmer werden gebeten, die Beträge persönlich entgegenzunehmen. Es muss ein Personalausweis oder Pass mitgebracht werden. Domani alle ore 11.30 il responsabile dell'amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura effettuerà i pagamenti dei rimborsi. Tutti i partecipanti sono pregati di recarsi nella sala al secondo piano per ritirare di persona. Devono mostrare un documento d'identità, il rimborso.